si può fare. Cronache da un paese migliore. Di Alessio Maurizi. Buonasera, buonasera cari ascoltatori, ci ritroviamo nella prima puntata del 2014. Buonasera ad Alessio Maurizi, 800 24 00 24 in compagnia e con l'assistenza questa sera in redazione di Giorgio De Luca, in regia Pietro Lacorte. 800 24 00 24, cominciate a chiamare per prenotare i vostri interventi. Vi vogliamo chiedere di nuovo la vostra bella notizia del 2013 che vi portate in questo 2014, ma anche e soprattutto i buoni propositi per il 2014. Ne abbiamo sentiti un bel po' in questi giorni, adesso poi vi rinfrescheremo la memoria così giusto per entrare nel vivo. Ma iniziamo subito con i titoli di Sky TG24. Legge elettorale, Renzi presenta 3 proposte, apertura di Alfano, Berlusconi apprezza e rilancia, voglio l'Election Day. Chrysler e tutta della Fiat, il lingotto compra il restante 41% delle quote azionarie, il titolo vola in borsa. Stanno bene i bambini ritrovati sul Monte Livata, la madre è ancora in stato di shock, la procura apre un'inchiesta. Autobomba esplode alla periferia di Beirut, almeno 5 i morti, distrutte le facciate di 2 edifici. Michael Schumacher in condizioni stabili per i giornali tedeschi, sarebbe caduto per soccorrere la figlia di un amico. Dramma nel Milanese, un pensionato ha sparato e ucciso in clinica la moglie malata, poi si è suicidato. Si è costituito il pirata della strada che nella notte di Capodanno vicino a Cosenza ha ucciso una donna e la figlia. Salvataggio riuscito nell'Antartide, soccorsi tutti i 52 passeggeri della nave russa bloccata tra i ghiacci. Gioco delle tre carte, avvicinatevi, sinistra, destra oppure al centro, non distraetevi, se state attenti a tutti i miei movimenti. Il gioco delle tre carte, il gioco delle tre carte, perché oggi Matteo Renzi in grande spolvero ha fatto le sue proposte ai segretari di tutti i partiti per una riforma della legge elettorale. Non mettetevi a ridere, sono anni che se ne parla, però forse questa volta c'è un pochino più di convinzione. Sono 3 le proposte di riforma della legge elettorale che Renzi fa con un metodo inedito, devo dire, abbastanza innovativo. Non punta tutte le sue carte su un metodo di legge elettorale, ma su 3 che sono. Allora, quella per il come si eleggono i sindaci col secondo turno, e questa lo conoscono un po' tutti, il Mattarellum, recuperare il Mattarellum con il premio di maggioranza, 3/4 maggioritari, e poi il metodo spagnolo. Amici spagnoli che siete all'ascolto, chiamateci 800 24 00 24, perché questa è una novità, il metodo spagnolo. Ma sentiamo Renzi, quello sulle 3 proposte di legge elettorale. Cominciamo da questo, se ce l'abbiamo in regia. Queste 3 proposte sono la proposta del doppio turno, come sul modello dei sindaci sopra i 15.000 abitanti, la proposta della legge Mattarella rivisitata con il 25% non più recuperato con il meccanismo dello scorporo ma con un premio di maggioranza e un diritto di tribuna, e la proposta sul modello della legge elettorale spagnola con un premio di maggioranza che consenta a chi vince di governare. Sono 3 proposte su cui i partiti che stanno in Parlamento più volte hanno detto sì, ci stiamo. Bene, adesso le carte sono sul tavolo il 2 gennaio, per cui se si vuole in 15 giorni, in un mese, si può chiudere. Ma le 3 carte sono anche quelle delle leggi di fine anno che sono state approvate e che sì, abbiamo detto abbiamo tolto la legge sugli affitti d'oro, abbiamo tolto la legge che limitava che andava contro i comuni che limitavano le slot machine, abbiamo eliminato delle porcate, sì, però se andiamo a guardare come fa oggi Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, attenzione, perché per esempio la norma sugli affitti d'oro ritorna, cioè, o meglio, è stata depotenziata la norma che concedeva alle pubbliche amministrazioni di recedere dagli affitti d'oro, e siccome si danno sei mesi si devono dare sei mesi di preavviso, e guarda caso il termine entro il quale questa cosa si può fare è il 30 giugno di quest'anno, qualcuno ha fatto i conti, sei mesi meno sei mesi fa zero, e quindi se la matematica non è un'opinione, forse la norma sugli affitti d'oro è saltata, cioè è rientrata, non so se avete capito, è complicato, però piano piano poi ci arriveremo. Così come le tre carte sono quelle di altre norme che ha scovato Dario Nardella del PD e l'ha postate su Twitter il 31 sera. Ci sono tutti i finanziamenti che erano spariti dal Salva Roma, che poi non è stato approvato, ma che sono rientrati dalla finestra. Non so, i 300.000 euro per l'Orchestra I Virtuosi Italiani di Verona, oppure i 200.000 euro per il Museo dell'Emigrazione Italiana, il 1 milione di euro per il Teatro San Carlo, l'abbiamo fatto questo elenco. Ma bisogna rifarlo, bisogna stare lì a guardare e vedremo, perché per i primi di gennaio Nardella ha annunciato emendamenti per ritirare queste norme. Ma torniamo alla legge elettorale, sentiamo alcune reazioni alla proposta di Renzi. Questa è l'onorevole Vicari del nuovo centrodestra. La strada sembra sostanzialmente spianata, sono tutti d'accordo, sentiamo. Per il nuovo centrodestra la legge elettorale deve essere condivisa dall'attuale maggioranza ed estendibile ai partiti che ne condividono l'idea. Per i cittadini deve essere una legge elettorale che porti alla scelta del candidato, del proprio politico, e sappia al termine della consultazione quale maggioranza, quale partito ha vinto. Siamo favorevoli a una nuova legge elettorale bipolare da varare rapidamente per poi andare al voto, affinché siano gli italiani a scegliere con Berlusconi uno schieramento che voglia riforme vere, presidenzialismo, meno seggi in Parlamento, fine del bicameralismo. La sinistra vuole solo cambiamenti di facciata. Ma c'è anche Grillo, Beppe Grillo, che nel suo discorso di fine anno dice: ripartiamo dal Mattarellum. Ripeto, sono tre le proposte oggi fatte da Renzi: il doppio turno sul modello dei sindaci, il Mattarellum con tre quarti di maggioritario e premio di maggioranza, e il modello spagnolo, modello inedito, modello nuovo. Cari amici spagnoli, se c'è qualcuno all'ascolto, sarebbe bello che ci chiamaste per dire come funziona in Spagna, così giusto per capire. Sentiamo Grillo. Abbiamo appoggiato la mozione Giachetti che voleva abolire il porcello, mentre il PD ha votato contro. Il signor Letta, abbiamo un documento firmato che ha votato contro l'abolizione del porcello. Non ci resta che riprenderci il Mattarello e andare a votare, perché questa gente che è in Parlamento oggi, compresi noi, siamo stati eletti tutti in un modo illegale e anticostituzionale. Tra PD e PDL e PD meno XL che si spartivano il paese, se lo sono spartito e mangiato, e l'abbiamo visto come, con i lobbisti dentro il Parlamento, il lobbista di destra, il lobbista di Berlusconi, il lobbista di sinistra, il lobbista di centro, il lobbista che va lì e cambia una legge, il lobbista di De Benedetti che si mette lì dietro alla commissione, dietro la saletta della commissione energia, e poi entra e poi quando esce c'è una piccola leggina fatta ad hoc per la Sorgenia, per defiscalizzarla per 20 milioni di euro. Salutiamo Davide Faraone, buonasera, deputato del PD, neo ingresso nella segreteria del PD con la responsabilità del welfare, buonasera. Buonasera a voi. Allora, e buon anno. E buon anno anche, naturalmente, auguri anche a lei e a chi ci ascolta. Faraone, si riparte col tormentone della legge elettorale. Infatti, dopo tutti questi commenti che avete fatto sentire, mi sento anche un po' comico. Lo so. Però allora dà ragione a Grillo che dice: noi non commentiamo, oggi il Movimento 5 Stelle non commenta le vostre proposte, perché dice: noi commentiamo solo gli atti, le proposte in Parlamento e non le pagliacciate. Cioè, dicono in sostanza che siamo ancora a livello di pagliacciate. Lo dicono in maniera un po' offensiva, però lei rideva e quindi... Ma io rido perché nel teatrino c'è anche lui, perché il problema è che noi abbiamo fatto una cosa nuova rispetto a quello che normalmente i partiti e i gruppi parlamentari hanno fatto in questi anni. Abbiamo lanciato delle proposte concrete, più di una, tre possibili, che hanno insieme soltanto una caratteristica, sì: il mantenimento del bipolarismo e la certezza di chi vince. E i cittadini hanno chiaro chi è che elezioni e chi le perde. Dopodiché è assolutamente indifferente per noi se sia il Mattarellum con il premio di maggioranza, il doppio turno o il modello spagnolo, decidano le altre forze politiche se voler dialogare o stare ancora sul tetto come fa Grillo, che non decide semplicemente di fare caos, ma poi quando ci sono proposte concrete scappa regolarmente. Non scappi più, stia lì e si confronti su queste proposte e in un mese chiudiamo sulla legge elettorale. Chiudere sulla legge elettorale vuol dire avere la garanzia che qualunque cosa accada ci sarà un governo, ci saranno le elezioni tranquille e lineari e quindi chiunque potrà far prevalere la sua proposta rispetto a quella degli altri. Su chi puntate voi? Insomma, tiriamo un po' giù le carte, perché a un certo punto avrete in mente un interlocutore piuttosto che un altro dalla maggioranza. La cosa comica è che sentivo le interviste di Gasparri e della Vicari, che in teoria sono potenziali futuri alleati, che ci dicono uno di fare in un modo e l'altro di fare nel modo esattamente opposto. Noi crediamo che l'unica stella polare che dobbiamo avere sono i cittadini e i 3 milioni di elettori che hanno votato Matteo Renzi. Però non bastano in Parlamento, Faraone, bisogna trovare i voti. Se noi, più che dire che a noi interessa il merito e scelgano loro qualunque delle tre carte, anziché il gioco delle tre carte con tre carte diverse, anzi due uguali e una diversa, noi le mettiamo tutte e tre allo stesso livello. Scegliete voi, per noi va bene qualunque voi scegliate, maggioranza, opposizione. Abbiamo accolto l'appello del Presidente della Repubblica Napolitano che ci dice sulle regole andate avanti insieme, ma per esempio le forze politiche indistintamente. C'è più di questo, cosa dobbiamo fare per far comprendere che vogliamo realmente cambiare? Quindi anche se fosse il primo interlocutore una forza non all'interno della maggioranza, cioè non il nuovo centrodestra, non una Scelta Civica, ma per esempio il Movimento 5 Stelle, che sul Mattarellum si erano detti in passato, e lo abbiamo sentito anche poco fa con Grillo, favorevoli, non avreste paura di indebolire così la maggioranza attualmente che sostiene Letta? Ma lì l'auspicio è che innanzitutto le forze che sostengono Letta, siccome tutte hanno dichiarato di volere una nuova legge elettorale di stampo maggioritario e bipolare, l'auspicio è che innanzitutto quelle forze politiche trovino sostegno su una legge elettorale. Dopodiché, una volta chiusa questa interlocuzione, si può allargare complessivamente a tutte le forze parlamentari. Quello che è intollerabile è se forze che sostengono il governo Letta, in forza di questo sostegno, pretendono di non cambiare nulla per rimanere in sella e rinviare il momento elettorale fin quando non si rafforzano elettoralmente, non si organizzano nelle loro interlocuzioni con altre forze politiche che però sono all'opposizione. Questo sarebbe intollerabile. Ma per esempio, il gioco di chi vuole perdere tempo, stiamo facendo un'operazione che è un'operazione verità. Dato che Renzi ha detto più volte non vogliamo fare la legge elettorale a maggioranza come è stato fatto in passato, cioè con il perimetro stretto della maggioranza di governo, ma vogliamo farlo in condivisione con più forze politiche, questo potrebbe essere una priorità. Forza Italia ha più parlamentari del nuovo centrodestra, quindi un interlocutore potrebbe essere e sarà Forza Italia. Ma un interlocutore è sicuramente Forza Italia. Io intanto vorrei che valorizzassimo una cosa. Fino a qualche settimana fa, prima che Matteo Renzi diventasse segretario del PD, le leggi elettorali di cui si discuteva erano più quelle del ritorno al passato proporzionale senza bipolarismo rispetto a quelle che invece garantiscono questo modello politico elettorale. Oggi discutiamo i tre modelli, poi c'è Forza Italia che preferisce il Mattarellum, il nuovo centrodestra preferisce il doppio turno, Grillo ha detto il Mattarellum e poi vedremo anche le altre forze politiche, ma tutte hanno un'ispirazione bipolare. Lei personalmente ha qualche preferenza? Ma no, assolutamente, io spero che scelgano loro, qualunque di queste formule verrà scelta, per noi andrà bene. Senta, lei ha detto qualche giorno fa, o si cambia o si muore, riferito al governo Letta, che è un po' il refrain detto da Renzi più volte, cioè o si fanno cose per i cittadini, cose per il lavoro, ma anche la riforma elettorale, oppure il governo, è inutile chiedersi quanto durerà o quanto non durerà. Per esempio, una delle cose che avete annunciato di fare è rimettere mano alla legge di stabilità, al milleproroghe. Per quanto riguarda il suo collega di partito Nardella, ha fatto un elenco di leggi mance. Lei l'ha visto questo elenco? Ho visto, purtroppo l'ho visto. Ed è meritorio che Dario abbia fatto un elenco di questo genere, che fa comprendere come molto spesso alcune furbizie sono comprese e possono essere comprese tranquillamente e che sono intollerabili in questo periodo. Per esempio, c'è qualcosa in particolare? Perché sono tante le misure. Che si contestano delle marchette inserite nel Salva Roma, che Salva Roma viene tolto di mezzo perché ci sono, anche perché ci sono quelle marchette, e poi prendono un altro provvedimento legislativo in cui non c'è un intervento del Parlamento per rimetterle dentro, è una furbizia intollerabile. Per cui è anche meritorio che Dario Nardella abbia avviato l'iniziativa di proporre degli emendamenti che hanno... Però sono anche i colleghi di partito suoi che hanno votato, per esempio sugli affitti d'oro. Il primo emendamento che toglieva l'emendamento dei 5 Stelle l'ha votato Magda Zanoni, una del suo partito, una sua collega. No, infatti il problema che è emerso in quella fase di lì è un problema che emerge trasversalmente tutte le forze politiche. Noi abbiamo una necessità, dobbiamo innanzitutto riacquisire il senso del pudore, e cioè di riuscire a comprendere che i cittadini non sono problemi, che c'è una necessità, che quando chiedi sacrifici ai cittadini innanzitutto chi li chiede li deve fare, e su questo bisogna avviare una serie di azioni di tagli ai costi della politica reali, seri, e un'azione di cambio dei comportamenti rispetto a delle modalità che sono profondamente scorrette. Questo è giusto. Quando io parlo di cambiamento o si muore, intendo innanzitutto questo. Però sentiamo dire questo, però poi, ripeto, c'è la collega di partito che firma concretamente l'emendamento, ma si può parlare di errori come ha fatto Letta, oppure, come dice Grillo, si tratta di lobby? Ma io non credo che tutte le persone che hanno votato la fiducia al governo Letta rispetto al Salva Roma erano persone la votavano per una questione di avere una lobby dietro o qualche cosa, qualche interesse occulto da difendere. Un problema di utilizzare l'istituto della fiducia nei momenti in cui serve sul serio. La fiducia si mette su provvedimenti alti e non sulle marchette. Questo è indispensabile, perché quando tu chiedi fiducia ai tuoi parlamentari, la chiedi in bianco sull'azione di governo, devi avere il senso e responsabilità di chiederla per cosa. Però io mi domando, perché su provvedimenti che sono così di questo tipo. No, questo è chiaro sul concetto di fiducia, questo mi sembra lineare quello che dice. Però mentre per esempio l'onorevole Giorgetti, sottosegretario di Nuovo Centrodestra con la delega alla questione del gioco d'azzardo, per esempio, ha detto anche pubblicamente: va bene, avete tolto questo emendamento, però lui dice: io credo che su questo bisogna ritornare, perché si è esposto pubblicamente, diciamo, andando contro i comuni che mettono limiti alla diffusione delle slot machine, non certo dicendo faccio parte della lobby delle slot, però dicendo pubblicamente il suo pensiero. L'onorevole Zanoni, io ripeto, non so se lei la conosce, il suo partito, perché secondo lei ha firmato quell'emendamento sugli affitti? Io penso dobbiate chiedere a lei. Lei non la conosce la Zanoni? Sì, il problema sul tema, nel merito, penso che dobbiate chiederlo a lei, perché ha firmato quell'emendamento. Io posso... Lei non l'avrebbe firmato. Un metodo, io non l'avrei firmato, mi rendo conto che molto probabilmente ci sarà stato da parte dell'onorevole Zanoni un'azione assolutamente in buona fede, non credo che ci sia per forza il lato oscuro del dover verificare iniziative occulte in ogni azione che compie un parlamentare. Dopodiché dall'altro lato però c'è stato un chiaro indirizzo che il segretario nazionale del PD su alcuni punti aveva dato chiaramente, quando ci sono stati alcuni provvedimenti emersi già al Senato, perché c'è poi quest'altra barzelletta del bicameralismo perfetto, per cui questi provvedimenti rimbalzano di camera in camera, quando già al Senato alcuni provvedimenti di quel tipo erano emersi, Matteo Renzi ha fatto degli interventi chiari e precisi di rimozione di quei tipi di interventi. Se poi un parlamentare decide con accanimento terapeutico di continuare a riproporre, chiedete a loro perché lo hanno fatto. Io non lo condivido e non l'avrei fatto. Va bene, va bene. Senta, lei è una dei responsabili della segreteria che sta lavorando al Job Act, è così? Sì, ci stiamo lavorando un po' tutti. Il 4 avremo questa segreteria nazionale a Firenze e tireremo fuori una proposta complessiva. Al momento cosa ci può dire? Si tratta di un contratto unico? No, al momento non entro nel dettaglio perché mancherei di rispetto nei confronti dei miei colleghi di segreteria che insieme contribuiranno a tirar fuori il provvedimento. Sicuramente sarà uno strumento profondamente innovativo e non condizionato da logiche ideologiche che hanno contraddistinto questo dibattito in questi anni in Italia e che ci hanno tenuti fermi a non fare nulla per il lavoro se non errori su errori. Però conterrà una previsione di maggiore flessibilità in cambio di un sussidio di disoccupazione in caso di perdita del lavoro, è questo come quello che aveva detto Renzi? Che ci deve essere corrispondenza ad ogni grammo in più di flessibilità, ci deve essere un grammo in più di garanzia rispetto a un welfare che oggi garantisce soltanto alcune categorie e ne esclude altre. Il tema è questo: se un lavoratore ha un contratto più flessibile, ma al tempo stesso è garantito dal fatto che quando esce al circuito lavorativo lo Stato gli garantisce la formazione e una sussistenza o un reddito che gli consente di continuare a vivere in quei momenti, non avrà il lavoratore nessun problema a accettare la flessibilità. Oggi il problema è che molto spesso chi perde il lavoro si trova in mezzo a una strada. E questo è intollerabile in uno Stato democratico. Senta, ma abbiamo letto che questa riforma potrebbe prevedere anche una legge sulla rappresentanza sindacale che una parte dei sindacati chiedono, per esempio la FIOM lo chiede. Potrebbe esserci anche una parte di questo tipo ad accontentare un po' il mondo sindacale? Ma lì noi crediamo, innanzitutto questa è materia di confronto principalmente fra le parti sociali, dopodiché noi crediamo che se i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori partecipano alla vita di un'azienda, sia essa pubblica sia essa privata, il valore sociale delle scelte che quelle aziende compiranno sarà un valore di cui anche quelle aziende terranno conto, mentre molto spesso vi è stata in questi anni una finanziarizzazione dell'economia che teneva molto poco in conto le persone, teneva più in conto il guadagno e il guadagno facile. Credo che la partecipazione maggiore delle forze sociali nella guida delle aziende a questo punto di vista può essere un ottimo strumento. Il cosiddetto modello tedesco che piace alla CISL, qualcosa di questo genere? Può essere quello, nel dettaglio si può entrare anche con varie altre possibilità, però l'importante è la sostanza. E poi ci vorrebbe che fossimo all'interno di Focus Economia, che è il nostro programma economico, no? Vabbè, sto scherzando. Ci fermiamo qua, grazie mille Davide Faraone. Grazie a voi. Buona serata, auguri. Tanti auguri. Sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare, si può fare. Cronache da un paese migliore. Oh, cari ascoltatori, noi aspettiamo anche i vostri interventi 800 24 00 24, non solo per commentare i fatti di giornata, le dichiarazioni di Renzi sulla legge elettorale, tutto quello che volete come ogni sera a quest'ora, ma anche, visto che siamo ancora nella prima settimana del nuovo anno, i vostri buoni proponimenti per l'anno prossimo. Io vi ricordo, per esempio, che due giorni fa, nell'ultima puntata, ci avevano chiamato Stefano da Milano, libero professionista, che ci aveva detto: ho due buoni propositi, continuare a pagare le tasse, cioè a continuare a fare il suo lavoro, quindi a non chiudere la sua attività, e rinnovare la beneficenza che lui e sua moglie fa. A dire la verità, lui ci ha detto che è la moglie che lo costringe a fare la beneficenza. Poi ci aveva chiamato Vittorio da Torino dicendo che lui lavora a un'enoteca, è un enologo, anzi, che era stata una buona annata il 2013 per il vino, e lui si augurava che lo fosse altrettanto anche il 2014. Oppure anche Antonio da Treviso, che nel 2013 ha aperto un'azienda, ha assunto 4 persone e nel 2014 sperava di poter confermare tutto questo. 800 24 00 24, piccole cose che riguardano la vostra vita, ma anche cose più grandi, quello che volete. Cominciamo con Anna, che ci chiama da Napoli. Buonasera. Buonasera. E io volevo intervenire sulla legge elettorale. Le proposte di Renzi sono interessanti Grillo nella prima dichiarazione fatta subito dopo che Renzi aveva fatto questa proposta di scegliere tra questa triade che lui proponeva, sì, gli risponde dicendo che lui non collabora perché sono pagliacciate, insomma non le considerava serie. Adesso dice che proprio il vostro giornale radio ha detto che ha cambiato un po' idea, in effetti lui vedrà in Parlamento quando si proporrà la legge, vedrà se votarla o meno. Sì. Allora, fino adesso Grillo si è caratterizzato, il Movimento 5 Stelle si è caratterizzato nel dire e nel mantenere poi quello che aveva detto, quindi un alone di serietà. Adesso invece incomincia pure lui a diventare troppo politico, cioè cambia idea. E insomma, manco lui, manco nelle sue parole dobbiamo essere fiduciosi. So. Lei era fiduciosa in Grillo e adesso lo è di meno. Guardi, io l'ho sempre preso con dubbi, perché non ha le idee molto chiare, non è stato mai un politico, insomma, c'è un po' di confusione, e questa confusione invece di con l'esperienza invece di diminuire aumenta. Stasera me ne dà una dimostrazione. Va bene Anna, guardi, le dedichiamo le parole che ha detto Renzi oggi a proposito di Grillo, dice un po' quello che dice lei, sentiamolo. Noi qui abbiamo fatto una proposta molto seria. Grillo su tante cose sta rinunciando ad avere un confronto, per esempio quando noi abbiamo proposto l'abolizione delle province e il superamento delle province per la trasformazione in ente di secondo livello, quindi sostanzialmente anche in questo caso la fine di ogni aspetto economico del ceto politico in provincia, cioè il presidente della provincia non è più eletto, non ha più un centesimo di indennità, è semplicemente un sindaco di secondo livello, quindi non in attesa della modifica costituzionale, l'unica cosa che si può fare a Costituzione vigente, Beppe Grillo ha fatto l'ostruzionismo in Parlamento. E questo era Renzi, dedicato ad Anna. Adesso andiamo a Federico che ci chiama da Pisa. Buonasera. Buonasera. Innanzitutto non la volevo fare i complimenti per la trasmissione molto più interessante della Zanzara. Vabbè, chi ascolta da tempo. Nulla, volevo dire... Grazie, io prendo i complimenti per quanto mi riguarda, poi i confronti ognuno fa i suoi. No, sì. No, perché insomma, quando si parla e si lascia parlare è sempre meglio, secondo me. Io voglio dire che sono ingegnere e sono deluso da questo paese per vari motivi. Continuo sempre a votare, ho sempre votato a sinistra, però sentire che, come ha detto all'inizio della trasmissione, sugli affitti d'oro, che veramente se scadrà a giugno ci sono 6 mesi di tempo, io non so con chi pensano che abbiano a che fare, veramente con persone che non sanno fare due. Guardi, sarebbe una cosa strabiliante, oggi lo scrive Rizzo sul Corriere della Sera, la conclusione diciamo pessimistica non è sua, lui la attribuisce a un'interpretazione del Movimento 5 Stelle su questo, però sicuramente lo stesso Rizzo, che di queste cose se ne intende, ne ha scritto, dice che beh, quantomeno la norma è indebolita, la norma sugli affitti d'oro, e quindi questo è, perché bisogna sempre andare a leggere e a scovare tra i cavilli. Poi magari questa è un'interpretazione maliziosa e verremo smentiti, chi lo sa. Federico, voleva aggiungere? Sì. No, io le ripeto, ho sempre votato in modo costruttivo e all'inizio pensavo anche che Renzi fosse potesse essere il futuro, però non, ultimamente mi sembra che non ci sia tanta speranza. Comunque, buoni propositi per il 2014 ne ha da condividere con noi o ci salutiamo qua? Sì, no, buoni propositi spero che di dare qualcosa a mio figlio che ha 2 anni e mezzo di poterla far crescere in un'Italia migliore. Bravo Federico, grazie, auguri. 800 24 00 24, abbiamo Stefano che ci chiama da Pescara, buonasera. Pronto? No, Gaetano, mi scusi, sbagliato io. Gaetano, no, da Pescara. Prego, si figuri, buonasera. Senti, io volevo parlare riguardo un po' quello che ha detto Faraone sul Movimento 5 Stelle, sì, non fa niente, e sul fatto delle lobby. Non ci dimentichiamo che le foto sono state fatte, la Sorgenia che stava in commissione a farsi defiscalizzare 22 milioni di euro per De Benedetti, E sono proprio Speranza, sono tutti, come lei ha giustamente ricordato, ci sono molti parlamentari del PD, quindi con che faccia vengono a dire no, ma non credo che siano le lobby, ci siano, sono degli errori. Non sono errori, sono cose volute, perché nel momento in cui ci sono quelle persone, esponenti di interessi altrui... Anch'io insomma, credo che siano cose volute, gliel'ho chiesto diverse volte, ovviamente Faraone risponde per sé, dovremmo intervistare la signora questione, però... No, ma certamente. E poi altra cosa, sul fatto che fa solo cassa sul tetto. Sul tetto ci siamo saliti perché era riguardo l'articolo 138, non ce lo dimentichiamo. Quindi che stesse attento Faraone a dire fa caos, non fa caos, perché mandare il 138 in deroga alla commissione dei saggi è quanto di più anticostituzionale ci possa moralmente essere a livello concettuale nella concezione della nostra Costituzione. Quindi, oltre questo, poi il fatto della legge elettorale, noi la legge elettorale, una bozza l'abbiamo già presentata, l'abbiamo sempre detto, e non è come la signora che ha detto prima, Grillo cambia idea, abbiamo sempre detto, questo Parlamento, incluso noi, siamo incostituzionali, almeno moralmente, quindi si torna all'ultima legge elettorale, il Mattarellum, il Mattarellum, perché quella è costituzionale, e poi il nuovo Parlamento la farà e la dovrà fare, ma anche noi siamo incostituzionali. Mi scusi Gaetano, cioè si sceglie il Mattarellum anche perché è una buona legge o solo perché di fatto dopo la sentenza della Corte di Costituzionale l'attuale legge, il Porcellum, è decaduta? Perché non è questo un buon motivo, capisci? Cioè, decaduta quell'altra. Ma non ci dimentichiamo. Anche se può essere una via, però insomma basta dirlo. Non ci dimentichiamo che fu fatto il V-Day, dove chiedevamo l'introduzione del voto di preferenza. Sì. Non ce lo dimentichiamo. Quindi il Mattarellum ha la preferenza. Non ci dimentichiamo che ha la preferenza ed è l'ultima legge costituzionale che può essere portata. E quindi è questo il discorso. Un Parlamento votato col Porcellum. Tra quelle messe tra le tre carte messe sul tavolo da Renzi, potrebbe ricevere l'appoggio del Movimento 5 Stelle, che ha un nucleo, una pattuglia di parlamentari discreta, e vedremo invece se saranno gli altri modelli di riferimento a riscuotere più successo o un altro ancora, chi lo sa. Grazie Gaetano. Andiamo a dove andiamo? Maurizio, che ci chiama dalla provincia di Bergamo. Buonasera. Sì, buonasera a tutti quanti. Sì, ma vorrei fare una battuta. Sì? Ti piace vincere facile al signor Renzi? Perché il discorso è vero, bisogna parlare di legge elettorale, ma non si può fare una legge elettorale quando poi all'atto della votazione si ha 200 parlamentari ottenuti in virtù di una legge palesemente incostituzionale. Ho capito, Maurizio, però se torniamo indietro dobbiamo annullare tutto, annulliamo questo Parlamento, annulliamo allora tutto, anche i giudici costituzionali che sono stati nominati dagli scorsi parlamenti, e quindi salta tutto. Non sto dicendo che dobbiamo annullare tutto, ma se vogliamo fare una reale discussione bisogna partire, e ripeto, io vorrei fare una premessa: io non ho votato 5 Stelle alle ultime elezioni, però mi sa che lo voterò alle prossime. Questo è legittimo. Per diversi motivi, cioè questo è uno di quelli, io adesso sto seguendo... Non ho capito qual è il motivo, cioè se lei dice Renzi non può fare la proposta perché ha preso troppi parlamentari con premio di maggioranza, che vuol dire? La proposta la può fare, ma non può mettere in campo nella votazione delle proposte un numero di parlamentari che di fatto... gli è stato Cosa deve fare? Deve dire a metà dei suoi parlamentari di non votare? Questo varrebbe anche per il governo attuale, è una follia, mi scusi Maurizio, questa è proprio una... Se è possibile, a questo punto dovrebbe, avendo cancellato dei punti della legge elettorale presente, che però la rendono di fatto non utilizzabile, perché di base per esempio c'è la cancellazione della nomina, c'è il diritto alla preferenza, quindi di fatto non è possibile andare al voto con questa legge esistente, e gioco forza bisogna ricadere sulla precedente. Però vorrei aggiungere un paio di cose, perché le ha fatto sentire un paio di commenti audio, per esempio uno di Renzi sulle province. Non dimentichiamo che il Movimento 5 Stelle alle provinciali non si è mai presentato proprio in conseguenza di questo, mentre invece Renzi è stato presidente di provincia, dove fra l'altro mi risulta abbia anche subito una condanna per qualche cosa relativa al momento in cui è stato presidente della provincia. Va bene, questo è anche un argomento. Lei si riferiva al passaggio in cui Renzi accusava Grillo di non aver sostenuto questa riforma delle province, che per Grillo è una pagliacciata, per Renzi è l'unica cosa che si può fare in attesa della riforma costituzionale. Abbiamo tutti più o meno in mente il quadro, lei ha aggiunto questo aspetto, benissimo, grazie. Federico da Milano, buonasera. Federico, 800 24 00 24, ce l'abbiamo? No, è andato via. Allora facciamo Luigi da Mantova. Buonasera, ascolti, io volevo contestare quello che ha detto Faraone del PD prima riguardo al bicameralismo perfetto, l'ha definito una barzelletta. Sì. Io ci andrei cauto, perché secondo me il problema non è tanto il numero dei parlamentari, ma il problema è l'onestà dei parlamentari, nel senso che si facesse una legge dove si dicesse entrare, che ne so, 5-6 mila euro, stop, ci andrebbero su chi ha pochi interessi, cioè chi vorrebbe fare la politica veramente per passione e non per interesse. Secondo me il bicameralismo perfetto è una garanzia del fatto che non si possa più ritornare a una dittatura, visto che è stata scritta da Ma addirittura approvata sulla. Dopo che secondo lei, se noi avessimo una camera sola come in altri paesi, o comunque come anche insomma in altri paesi dove l'altra camera ha un valore legato, diciamo, ai territori, alle regioni, al federalismo, questo sarebbe, metterebbe a rischio la democrazia italiana, secondo lei? Perché io ci andrei molto cauto, nel senso che stando a quello che dicono gli organi di informazione, sondaggi fatti dopo la votazione sulla decadenza di Berlusconi, fossimo andati alle elezioni avrebbe preso ancora la maggioranza. Io mi chiedo, ma noi italiani siamo in grado di governarci da soli o no? È meglio, secondo me, avere la garanzia di più persone o rischiare di fare in modo che qualcuno, adesso Berlusconi perché è l'ultimo esempio, qualcuno che comunque ha in mano le televisioni o qualcosa del genere, insomma, possa influire anche troppo sulla. Guardi, ma Luigi, ma in Italia di contrappesi ce ne sono tanti istituzionali, c'è la magistratura, c'è la Corte Costituzionale, nel caso ci sarebbe anche il Senato delle Regioni. Non credo che un Senato uguale alla Camera possa consentire. Cioè lei auspica Senato e Camera con maggioranze diverse, come è avvenuto in questi anni per via di un sistema elettorale folle, e però lei auspica la paralisi sostanzialmente, questo non credo sia. No. Modificare la legge elettorale, che come ha detto lei è folle, sì, è anche poco, però io sostengo che non è tanto il bicameralismo perfetto a non far funzionare l'Italia, quanto il fatto che nelle due Camere ci sono andati personaggi che poco puliti, ecco, diciamo. Con un papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Cari ascoltatori, tra poco riprendiamo con i vostri interventi. Adesso salutiamo Veronica Fiorillo, una delle italiane, degli italiani, dei cittadini citati il 31 sera dal capo dello Stato Giorgio Napolitano nel discorso di fine anno. Buonasera Veronica. Buonasera. Allora, io leggo brevemente la sua biografia così come la riportano oggi i giornali. 29 anni, un padre carabiniere, una mamma operaia, è cresciuta a Empoli, si è laureata in psicologia a Torino, adesso vive ad Arcore col fidanzato. Tra l'altro un percorso itinerante per l'Italia. Come c'è finita Arcore? Sono un'italiana 100%, anche come origini sono metà lombarda e metà salernitana, sì, sono cresciuta in Toscana, poi per studi mi sono trasferita a Torino sperando che il nord potesse offrire qualcosa di diverso, e l'amore mi ha portato poi in Brianza. Veronica, la sentiamo male, non so se c'ha qualche viva voce o qualche auricolare, di toglierlo. Ti tolgo l'auricolare. Brava, ecco, brava, perfetto, meglio. Adesso okay, sentiamo molto meglio. Lei sapeva che Napolitano avrebbe citato la sua lettera, o che avrebbe. No, non poteva saperlo, perché naturalmente nessuno conosce prima. Quindi è rimasta sorpresa. Chi gliela stava ascoltando o qualcuno gliel'ha detto? Guarda, Guardi, io stavo ascoltando, solo che in quel momento quando ha incominciato a parlare delle lettere io stavamo preparando il cenone, chiaramente, sì. Quindi mi sono alzata, ero proprio in un'altra stanza. Poi sono tornata e i miei amici mi hanno detto, ma hanno parlato di una Veronica di Empoli. Però detta così sembrava un po' un incrocio fra un'inviata speciale e un pittore dell'Ottocento. Ho detto no, non sono io, non posso essere io. Dopo ho sentito subito il discorso, ho detto no, ma quelle sono le mie parole. Non aveva fiducia sul fatto che potesse essere davvero lei la protagonista di quella citazione, di quella, non se l'aspettava assolutamente. Sì, non me l'aspettavo, ecco, la non fiducia ce l'ho in altro in questo caso, però non me l'aspettavo, ecco, questa è la parola giusta. Anche perché io avevo scritto a Napolitano già questa primavera, sì. E lui mi aveva già risposto dopo una settimana, quindi per me quel piccolo capitolo era già stato chiuso e concluso. Cosa ha scritto nella lettera a Napolitano? Io ho scritto con molta semplicità una sorta di storia a Napolitano, ho raccontato la storia appunto di questa semplice ragazza che studia come tantissimi altri, né più né meno di altri, un voto normalissimo, università in tempo, miliardi di ore di tirocinio che è comunque disposta a fare. E a un certo punto incontra la difficoltà non solo di trovare lavoro e quindi vada per la crisi economica, ma la difficoltà anche di trovare tirocini gratuiti. E lì ho cominciato appunto a pensare che non è più una crisi economica, non ce la raccontano giusta. È proprio una crisi di fiducia in noi giovani, non c'è forse spazio per noi, non c'è chi vuole segnare, chi non vuole responsabilità, chi non ha tempo, chi ha paura di perdere il posto, non lo so, queste risposte non le posso sapere io. La risposta che invece le ha dato Napolitano in qualche modo, non so, non dico che l'abbia soddisfatta, per quello che può essere un'interlocuzione così, Napolitano che legge la sua lettera e cita il suo caso. Guardi, già il fatto che mi aveva risposto dopo una settimana, già per questo ero contenta, mi ha detto di non perdere la speranza, non la sto certo perdendo, però insomma volevo comunque sollevare un interrogativo che poi è quello che a quanto pare ha fatto un po' più notizia. Cioè, io sono ancora imbarazzata di tutto ciò perché non me l'aspettavo, quindi sono ancora un po' frastornata da tutto questo. Ma quante domande ha fatto lei e anche quanti tirocini non pagati le sono stati proposti? Allora, io riporto la mia esperienza che è veramente quella di tantissimi tirocini gratuiti, un'infinità, un po' durante il percorso di formazione che dobbiamo fare durante l'università, ma anche dopo, anche perché io sto prendendo una specializzazione come psicoterapeuta e dobbiamo per legge giustamente fare una serie di tirocini in ambito pubblico come i medici, solo che noi li dobbiamo fare gratuiti, insomma, quindi le lascio immaginare, ho 4 anni di scuola di specializzazione, quante ore non perdo, investo, però anche la difficoltà di trovare appunto una location adatta per svolgere insomma il mio lavoro, né di più né di meno, curriculum mandati un'infinità, ma appunto non serve, siamo solo un pezzo di carta con un nome sopra, quindi Tra l'altro lei ha studiato e insomma adesso lei ha una qualche occupazione o ancora no? No, ancora no, cioè sto facendo il mio tirocinio come psicoterapeuta gratuitamente presso una comunità psichiatrica e al momento non sto lavorando. Il suo è un settore, tra l'altro, dove purtroppo sembra che ci sia continuo bisogno, non so, basta sfogliare i giornali, la cronaca, oggi Milano uccide la moglie malata in clinica, poi si suicida davanti al suo letto. Ora io non so se queste cose si potrebbero evitare con più ore di psicoterapia, con più investimenti in centri di salute mentale. Forse qualcosa si potrebbe fare. Lei cosa pensa ogni volta che vede delle notizie così e dice, cavolo, ma io sto qua e non posso lavorare, non posso aiutare nessuno perché questa mia attività non diventa mai un lavoro? Guardi, io sono una che confida nel prevenire meglio che curare, sempre e comunque. Questo vale veramente molto di più in ambito psicologico, ma senza andare a ricercare questi casi di cronaca nera che fanno sempre molto scalpore, basta andare nel semplice, in un reparto di oncologia, dove ci sono le persone che affrontano chemioterapie per ore su un ospedale e sono sole. Bisognerebbe guardare anche queste piccole cose, persone che affrontano dialisi sono lì da sole, insomma, quindi lavoro ce n'è tantissimo in ambito di consultori, insomma, posti anche molto più semplici, più in trincea, quindi sì, lavoro ce n'è tanto, però nessuno vuol pagare, questo poi il concetto di base, non c'è spazio per noi. Perché comunque si trattano di settori dove spesso sono servizi che ricadono sotto i comuni hanno tutti i limiti sulla spesa che conosciamo benissimo, e si finisce per tagliare quello che magari sono servizi più importanti di altri. Il suo compagno o marito? Compagno. Ah, lavora però? Sì, fortunatamente. Sì, no, per fortuna, perché se no appunto non è possibile non sarebbe possibile fare niente, ecco. Lei ha votato alle scorse elezioni? Allora, io ho votato, ma non ho preso una presa di decisione specifica, perché purtroppo non ho avuto la possibilità di poter decidere i miei rappresentanti, quindi non sono venuta a meno alla mia responsabilità di votante, sì. Ma non per questo appunto ho preso destra o sinistra o chiunque stia nel mezzo. Perché si riferisce al fatto delle leggi, del sistema bloccato, diciamo, quindi del fatto di non poter scegliere. Quindi lei è contenta che si parli di cambiare la legge elettorale? Sì, non sono un'esperta, non vorrei mettere bocca su argomenti che non conosco, a ognuno il proprio lavoro, sono contenta che ci sia comunque un po' di cambiamento, almeno l'idea del cambiamento, quindi il come poi me lo devono fare gli esperti, non certo noi. Senta, speriamo succeda qualcosa. Adesso che, dopo che ha scritto queste lettere, il fatto che è stata chiamata comunque anche dai giornali, pensa che questa cosa cambierà qualcosa dentro di lei, cambierà qualcosa attorno a lei, non cambierà nulla? Continua a essere ottimista, fiduciosa, oppure insomma è difficile essere ottimisti? Guarda, a me non piace proprio la parola ottimismo, perché dà un po' l'idea che tutto andrà bene. Io sono dell'idea un po' più di speranza, che comunque andrà, ce la dobbiamo fare, ecco, questo è quello che mi preme far passare. Io sono veramente non la portavoce, ma una voce fra miliardi, quindi spero veramente possa cambiare qualcosa. Nella mia vita non credo possa fare grossi cambiamenti, perché insomma rimango sempre... Realista, e il realismo adesso non porta belle notizie. Vabbè, io invece le auguro un grande in bocca al lupo, auguri per tutto naturalmente, e grazie per essere stata con noi. Grazie a voi per lo spazio che ci date a noi giovani, veramente un piacere. Grazie Veronica, auguri. Grazie, buon lavoro, salve. Questa era una delle italiane citate dal discorso di Napolitano l'altra sera, è stata una cosa un po' innovativa, in effetti dobbiamo dire, questa forma così diciamo di informale, di interattività che il capo dello Stato ha ricercato, probabilmente più per smuovere un po' le acque, per dare sensazioni diverse che non per portare risposte concrete, perché chiaramente non è attraverso lettere come questa o anche attraverso la risposta di Napolitano che si cambiano le cose. 19:16 minuti, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi in compagnia questa sera in redazione, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli in regia, Pietro Lacorte. Noi aspettiamo i vostri interventi all'800 24 00 24, anche oltre che per commentare insomma l'attualità, i fatti di giornata, soprattutto per esprimere i vostri buoni propositi per il 2014. Come gli amici più fedeli vi staremo al vostro fianco e vi veremo a cercare nel corso dell'anno per verificare se siete riusciti a mantenere questi impegni per il 2014 nelle edizioni del sabato e della domenica mattina di Si può fare, perché dopo questa settimana torneremo ognuno ai suoi posti, la Zanzara dunque ogni sera alle 18:30 e Si può fare ogni sabato e domenica mattina, dare il buongiorno di Radio 24. Cominciamo con i titoli del TG3. Renzi presenta 3 proposte di riforma elettorale, ora non ci sono più alibi, nel patto di governo anche unioni civili e modifica della Bossi-Fini. Alfano pronti a lavorare subito ad una legge elettorale sul modello dei sindaci, il ministro delle riforme Quagliariello ospite del TG3. Bene il metodo, dice Berlusconi, ma vogliamo l'election day, vertici 5 Stelle frenano i parlamentari, nessuno replica l'intervento di Renzi. Il Cavaliere presenta appello contro la condanna a 7 anni nel processo Ruby. I legali, deve essere assolto perché il fatto non sussiste. La borsa premia l'operazione Fiat su Chrysler. Marchionne, per noi una giornata storica. La CGIL ora dica che programmi ha per l'Italia. E intanto nell'industria sono 120.000 posti a rischio, 159 vertenze aperte. Il TG3 torna all'ex Miroglio, dove sono centinaia di operai in mobilità. Stuprata 2 volte una ragazza indiana, gli aggressori denunciati le danno fuoco e la uccidono. Proteste a Calcutta, i genitori accusano la polizia. Avvicinatevi, centro, non distraetevi. Il gioco delle tre carte, quanto mai azzeccata questa colonna sonora per la mossa renziana che oggi ha fatto avanzato la proposta per ben tre modelli di legge elettorale diversi. Il modello con doppio turno sulla base, stessa base delle elezioni dei sindaci che conosciamo abbastanza bene, il ritorno al Mattarellum, tre quarti maggioritario con premio di maggioranza, che anche questo lo conosciamo abbastanza bene, poi il modello spagnolo che forse conosciamo un po' meno. 800 24 00 24. Io vorrei proprio che stasera ci chiamasse un qualcuno che viene dalla Spagna, che è stato in Spagna, che conosce il modello spagnolo, così giusto per darci una rinfrescatina su questo. Sentiamo Renzi. E non c'è più un secondo da perdere per le grandi sfide dell'Italia: il lavoro, soprattutto la scuola, le questioni educative. Ma l'unico modo che la classe politica può avere per essere seria è di dare il buon esempio. E il buon esempio lo dai avendo il coraggio e l'intelligenza di chiudere finalmente le partite da troppo tempo aperte. Prima fra tutte la legge elettorale. In cambio di pochi modesti diritti d'autore. Noi diciamo, rinunciamo a portare una proposta secca. Ne portiamo tre all'attenzione delle altre forze politiche, sapendo che queste tre devono avere le caratteristiche su cui i cittadini ci hanno impegnato l'8 dicembre, vale a dire: chi vince deve essere chiaro il giorno stesso, chi vince deve governare per 5 anni senza inciuci e senza larghe intese, e chi vince deve garantire un sistema dell'alternanza. Stabilità sì, ma alternanza. Sarà illegale. Questo signore che ha fatto cos'è? Io veramente non me la prendo neanche, forse è lì, parla inglese, ma ha fatto il nipote di suo zio per 20 anni, è lì a raccontare palle, falsi, ipocriti, va in televisione a dire che noi siamo contro il porcello. Ma cari signori, non c'era neanche il Movimento 5 Stelle quando io, il Movimento, la rete si è mossa, abbiamo fatto il primo video, raccolto 350.000 firme. Queste sono dunque le voci della giornata. 800 24 00 24 per chiamare e commentarle in diretta. Adesso invece vi vogliamo raccontare una storia. La storia è quella di Paola Fontana, da cassa integrata a consulente per i lavoratori delle aziende in difficoltà. Buonasera. Buonasera. Lavoratrice dell'Eutelia o ex lavoratrice dell'Eutelia, che cosa dovremmo dire? No, sono tuttora una lavoratrice agile ex Eutelia, perché sì. Sono in questo momento in cassa integrazione in deroga. L'azienda di cui abbiamo parlato, si è parlato molto nei giornali, perché ha avuto una vicenda un po' particolare. Ce la vuole riassumere in poche battute, se possibile, quello che è successo alla sua azienda? Sì, alla mia azienda è successo che nel 2009 Eutelia, che era della famiglia Landi, ha acquisito i rami italiani di Getronics e di Bull Italia, dicendo: farò un grandissimo polo di Information and Communication Technology. E invece? In realtà quello che si è visto è che non aveva nessuna intenzione o a voler essere buoni, nessuna capacità di fare niente del genere. Infatti poi nel 2009 ha detto: no, la parte di information technology che appunto aveva acquisito con queste due aziende non mi interessa più, per cui faccio una cessione di ramo d'azienda verso Agile. E quindi ha creato una cosiddetta bad company che è arrivata nel giro di breve a distruggere tutto quello che avevamo come attività. Però arriviamo in fondo, ci sono persone che hanno perso il lavoro, persone come lei che sono ancora in cassa integrazione? Sì, allora, questa operazione ha coinvolto circa 2.000 persone, dopodiché i lavoratori finalmente hanno reagito rispetto a questa situazione. C'è stata una mobilitazione in tutta Italia, tutte le sedi aziendali occupate, dopodiché siamo andati in amministrazione straordinaria, questo all'inizio del 2010, e questo ha portato queste quasi 2.000 persone, non tutte diciamo, ma la maggior parte, in cassa integrazione. Su questo caso è stato scritto un libro da Massimo Cirri, psichiatra ma anche conduttore su Radio 2 di Caterpillar, che salutiamo anzi, certo. Che è Il tempo senza lavoro. Non è esattamente così, mi faccia dire, sì. Nel senso che Massimo Cirri ha scritto... Ha raccolto delle storie, tra cui... libro, esatto. Insieme a noi, nel senso esatto, che ha raccolto le storie, tra cui anche la sua. Voglio dire, non tutti i fallimenti evidentemente sono uguali. In questo caso l'interessamento, forse, anche lo stesso fatto che sia stato scritto un libro, il fatto che siate riusciti a creare un caso nazionale, forse le dimensioni o forse anche le capacità delle persone coinvolte. Fatto sta che siete approdati a che cosa? Adesso lei di che cosa si occupa? Finanziata, credo, da alcuni comuni della regione Lombardia, tra l'altro. In particolare dalla provincia di Monza e Brianza, sì. E dal comune di Monza, sì. Lei ha creato un progetto di che cosa? Di autoaiuto per lavoratori delle aziende in crisi. Sì, di autoaiuto per persone che hanno perso il lavoro. In realtà io non è che ho creato da nulla questo progetto. Sì. Questo progetto diciamo è nato dalla mia esperienza personale nell'azienda, nel momento in cui appunto noi siamo andati in cassa integrazione. È stato evidente che tantissime persone cominciavano veramente a stare male rispetto a questa situazione, no? Quindi la prospettiva di essere a casa senza lavoro magari a 50 anni ha cominciato a far crollare veramente le persone. Questa cosa è stata in qualche modo colta dalla CGIL di Milano, che ha deciso di provare a fare qualcosa rispetto a questo bisogno specifico, sì. E ha provato a creare nella nostra azienda questo gruppo in cui appunto si è detto chi vuole può partecipare, può parlare di come si sente, perché, di come sta. Deve essere, insomma, certo, abbiamo sentito prima il caso di Veronica Fiorillo, una di quelle italiane che hanno scritto a Napolitano, lei non trova un lavoro, ha difficoltà persino ad avere un tirocinio retribuito, ed è una ragazza di 29 anni ed è sicuramente difficile, ma deve essere altrettanto, forse anche di più, difficile perdere il lavoro a una certa età. Lei quanti anni aveva e più o meno l'età media di quelli che erano nella sua azienda, qual era? Allora, l'età media era piuttosto elevata, nel senso che sì. Siamo fra i 45 e i 50 anni. Quando è successa questa cosa io avevo 47 anni. E uno come si sente a quel punto? Si sente veramente in mezzo? Si sente perso, perché tra l'altro appunto persone di 50 anni, almeno nel nostro caso, molto spesso che hanno vissuto nella medesima azienda per tutta la vita e che insomma non si aspettavano proprio di trovarsi in una situazione del genere, no? Per cui ci si sente veramente, veramente molto male, non si sa più che cosa fare, no? Poi la consapevolezza che in questo momento trovare un nuovo lavoro è molto difficile, ovviamente aggrava la situazione. E lei però che cosa ha imparato da questa esperienza? Qualcosa avrà imparato, se adesso ha la forza, la motivazione, la capacità anche di dire qualcosa a chi capita nella stessa situazione e può avere il vostro servizio, che non so se è solo un servizio di sostegno psicologico, se c'è anche un percorso di formazione, qualcosa che, come spesso capita quando si perde il lavoro, si mette in atto, spesso ma non sempre però. Allora, quello che ho imparato fondamentalmente da questa esperienza è che bisogna assolutamente cercare di rompere l'isolamento in cui questa situazione ci porta, perché nonostante questa cosa di perdere il lavoro capiti a tantissime persone, ahimè, in questo momento veramente a moltissime persone, però si tende abbastanza a vivere in solitudine questa cosa e anche in isolamento, perché anche autoimposto, perché sembra che le altre persone anche non capiscano quello che stai passando, no? Che non nessuno comprenda, e un po' poi c'è il senso di colpa, c'è la vergogna, ci sono tutta una serie di sentimenti che anche se razionalmente sappiamo che non sono giusti, però di fatto ci sono, no? E quindi il fatto di mettersi insieme, di poter parlare e condividere, è una cosa che aiuta tantissimo a ritrovare un po' le energie, no? Il gruppo aiuta molto in questo senso, no? Si ritrovano delle energie e si riesce a reagire e a in qualche modo prendere in mano il cambiamento e gestirlo, no? E quindi questa è la cosa fondamentale. E questo mi ha portato in qualche modo a voler voler proseguire in questo percorso. Sì. E per cui, come dire, visto che queste esperienze sono state fatte in Camera del Lavoro, cioè sono state fatte nella mia azienda, poi in Camera del Lavoro di Milano, sono sempre state in qualche modo fatte con la CGIL, l'idea è stata, ma proprio un pensiero fatto anche dalla CGIL stessa, ma perché questo tipo di iniziativa non possiamo provare a pensarla fatta con le istituzioni, con gli enti locali, no? Perché, visto che esistono dei fondi e degli interventi per il reinserimento lavorativo, non proviamo a pensare, a sperimentare un'iniziativa di questo tipo come un'iniziativa all'interno delle politiche attive per il lavoro. E questo è un po' il progetto che ho scritto e che ho poi presentato appunto in Comune di Monza, in provincia di Monza, e che poi appunto loro hanno deciso di finanziare. Qualcuno ha paragonato, non so se lei o qualcun altro, la situazione dei lavoratori magari di mezza età che perde il lavoro a quella degli alcolisti, il fatto stesso, come diceva lei, di superare l'isolamento, di partire dalla missione della condizione in cui ci si trova per poi fare un passo e uscirne. È giusta questo paragone o ho letto male io? Ma non so, la posizione degli alcolisti, no, diciamo che l'approccio che noi usiamo è mutuato dall'approccio dell'appunto dell'auto mutuo aiuto, che sì, è un po' famoso nel mondo perché è quello che è stato usato appunto per gli alcolisti anonimi, insomma, poi negli alcolisti e poi in generale per in qualche modo affrontare diverse patologie, no? Però in questo caso appunto noi non stiamo parlando di una patologia, ma è l'affrontare insieme una condizione di vita, diciamo particolare, no? Dove il disagio che come dire, le persone provano in questo ambito non è un disagio patologico, voglio dire, è normale sentirsi a disagio, sì, in una condizione di questo tipo, no? Il lavoro è comunque uno dei pilastri su cui incentriamo la nostra vita, se il lavoro, certo, viene a mancare, come dire, è un po' tutto l'equilibrio che si incrina, ecco. Senta, ma lei come vive il fatto, diciamo, di questa nuova stagione che sta vivendo, cioè il fatto di uscire da una situazione di perdita del lavoro, diciamo mettendosi al servizio di altre persone, come ci ha raccontato, che vivono la stessa esperienza, anziché trovando un'altra occupazione, magari questa può diventare un'occupazione, però è un po' paradossale, non lo so, lei lo vive come una cosa definitiva o come un momento della sua vita? Allora, ma non mi sembra paradossale, nel senso che allora, per me questa è una prospettiva lavorativa, e io, come dire, voglio occuparmi di queste tematiche, mi interessano molto tutte le tematiche relative alle politiche attive per il lavoro e sono veramente molto felice di occuparmi di questa cosa, perché è una cosa in cui credo molto. Diciamo, quando io ho smesso di lavorare nella mia vecchia azienda, ho detto basta, io col mondo profit non voglio più averci niente a che fare, ero veramente stanca di quel tipo di approccio, no? Per cui ho deciso di lavorare nel sociale e ho cominciato a occuparmi un po' di queste tematiche e sono felicissima di farlo, non vedo nessun, anzi sono proprio molto soddisfatta di questa attività. E va bene, allora in bocca al lupo per tutto. Grazie per essere stata con noi. Paola Fontana, buona serata. Buona serata. E auguri. Si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 00 24, oppure se volete interagire in tempo reale con noi su Twitter l'account del programma e si può fare 24, il mio è Ale Maurizi. Ci sono anche un po' di messaggi al 349 238 6666. Ha colpito molto la vicenda, la storia di Veronica Fiorillo, a cui Napolitano ha risposto alla sua lettera il 31 dicembre sera. Veronica è una brava persona, mi piacerebbe poterla aiutare, però c'è anche chi dice la realtà è che la psicoterapia, psicoterapeuta non è un lavoro, dice Michele. Oppure, ma perché Veronica si ostina? Che faccia un altro lavoro, Massimo da Verona. Ma non è vero, non cadiamo in questi tranelli che la psicoterapia, la psicologia non sono dei lavori, non sono dei mestieri, perché non è affatto così. Non semplifichiamo troppo le cose. Chiunque di noi ha avuto in famiglia o anche nel nostro giro di amicizie qualcuno che ha avuto dei problemi sa benissimo che non è assolutamente così. Purtroppo c'è bisogno anche di psicoterapeuti. Il fatto che si taglino le spese dei servizi in questo settore non vuol dire che non sia un lavoro. 800 24 00 24. Allora andiamo con gli ascoltatori e anche e soprattutto voglio con i vostri buoni propositi. Vi arriveremo a cercare durante l'anno per verificare se siete riusciti a mantenere i vostri impegni. È bello farlo in diretta davanti a quante persone? Non lo so, 100, 200, 300 mila, 1 milione? No, a quest'ora, poi in questi giorni di vacanza un po' meno. Però Federico da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Le domande erano una buona notizia del 2013, sì, da portare nel 2014 e i proponimenti. Beh, la buona notizia è che la magistratura ha tolto dalla scena politica Berlusconi. Io sono un elettore del centrodestra, Berlusconi ha profondamente deluso perché per 16 anni ha avuto una maggioranza che forse non aveva neanche Margaret Thatcher. Però prima che lui arrivasse i magistrati saltavano dall'inquirente al giudicante, facevano 3 mesi di vacanze ed è ancora così. I nostri ragazzi venivano rovinati da una scuola che era basata sulla riforma Gentile, scassata dall'egualitarismo 68ardo ed è ancora così. Gli imprenditori lottavano contro la burocrazia ed è ancora così. Gli imprenditori ed è ancora così. Quindi questa è la buona notizia. Fuori questo. Il proponimento è buttare fuori qualcun altro, no, non lo so. Com'è? No, dico buttarne fuori un altro, no, cosa voleva dire? Il proponimento è partecipare di più alla vita politica, cioè noi italiani sì. Mugugniamo, ci lamentiamo, protestiamo, però continuiamo a firmare queste deleghe in bianco sì. Per degli spesso ignoranti, spesso incompetenti. E poi dopo ci troviamo quello che è. Bravo, poi è vero, Federico, è vero. Si fa presto a lamentarsi al bar, si fa bella figura, no? A sparare contro il governo di turno e a fare la battuta di turno, però poi bisogna essere anche costruttivi e propositivi, quantomeno nella scelta, essere informati, se no poi si diventa complici anche del mantenimento dello status quo. È un atteggiamento di responsabilità che è difficile pretendere dalle persone, dai cittadini, agli elettori. Ognuno ha un lavoro, una famiglia, i propri interessi nella vita, non si può chiedere a tutti di leggere 4 giornali al giorno, però almeno uno, ecco, questo sì, ogni tanto, perché visto che in Italia si legge anche poco, così abbiamo detto anche questa. Federico, sì. Esatto, e poi ci lamentiamo tanto delle lobby, bene, allora facciamolo anche noi la lobby. Le lobby sono un elemento fondamentale della democrazia, così come lo è il compromesso. Al compromesso è una cosa alla quale si sale, non si scende. E per salire ai compromessi bisogna discutere, dialogare, interloquire e quindi essere sempre presenti. Perché sennò anche il bravo politico, quello onesto, ben, con buoni proponimenti, non sa cosa ci serve, non sa cosa è necessario fare per i cittadini. E l'unico modo tra lo sapere è infilarsi in un partito, partecipare alle riunioni e spingere in una direzione. Però sulle lobby, per esempio quelle che sono state in azione in queste settimane, nel legge di stabilità Salva Roma, mille proroghe, lei è d'accordo su sono lobby non trasparenti, cioè non c'erano in discussione leggi sui settori d'appartenenza, ma sono norme, cavilli, emendamenti infilati in legge che hanno altri contenuti. Questo secondo me, almeno io lo dico, non è corretto, non va bene. Poi che le lobby ci siano forse è anche giusto. C'erano soltanto le lobby di quelli che avevano degli interessi economici particolari. Se ci fossero state anche le lobby dei cittadini normali, non dimentichiamo un piccolo esempio: l'obbligatorietà del casco per i motociclisti. Noi ci siamo dimenticati, ma è stata frutto di una lobby iniziata dai genitori di una ragazza che in una galleria di Genova in motocicletta morì perché non aveva il casco. Va bene, va bene, giusto ricordare anche questo. Grazie Federico, buona serata, auguri. Buona serata. Buoni proponimenti, sì, ce l'ha già detto, partecipare di più alla vita attiva, ce lo segniamo, eh? Va bene. Marco d'Alessandria. Sì, buonasera. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo dirle solo che così come viene fatto per la legge di stabilità, dove siete andati a trovare le varie pieghe in cui si vedono appunto le regalie a questa quella clientela, bisognerebbe allo stesso modo rispondere a chi dice appunto ecco Renzi adesso propone questo, oppure il PD propone quest'altro e Grillo rifiuta, perché in realtà ci sono delle motivazioni se uno va a vedere nel dettaglio quello che succede, non è così come viene venduta la cosa. E poi per esempio la proposta di abolire il Senato è copiata dal programma 5 Stelle, non è che adesso mo arriva Renzi e dice ah, aboliamo il Senato, come diceva prima anche l'intervento di Grillo che ha fatto sentire, sono cose che comunque... Ma aboliamolo questo Senato, Marco! Ma volentieri, che sia uno, ma volentieri! Che sia... Mettetevi d'accordo e abolitelo sto Senato! Sì, no? Ma lei lo sa come succede, no? Uno sì. Scrive la legge e poi dentro ci infilano delle cose, capito? Ci infilano delle cose e uno dice, ecco adesso se non la provi sei uno puntini. Perché però in realtà uno è anche ne approfittano anche, capito? E questo è il punto, bisognerebbe andare a vedere queste cose e soprattutto tutti i dibattiti che si sentono con i politici, che qualcuno glielo faccia notare questo aspetto, perché sennò è facile dire ah propone e poi lui rifiuta, capito? A proposito di proposte, le sue buone propositi per l'anno prossimo? Ce li vuole depositare qua? Cercherei quest'anno di trovare dei motivi per restare qua in Italia. Buon proposito. Va bene, va bene. Grazie Marco. Bene. Andiamo a Firenze, Michele. Buonasera. Io volevo dare la mia visione per quello che ha detto Veronica prima. Io penso che la sua attività sia un'attività che può essere assolutamente utile e lei secondo me dovrebbe farla non come dipendente ma dovrebbe farla come imprenditore, quindi io penso che possa aprirsi una sua partita IVA, aprire bottega come dico io e aspettare che gli arrivano i clienti, e questo è quello che fa normalmente un imprenditore. Per quanto riguarda il tirocinio che gli viene pagato, no? Io voglio dire come funziona nel settore privato, come è funzionato per me. E la mia formazione è stata fatta così, ho dovuto pagarmi non solo i corsi, ho dovuto pagarmi non solo l'albergo, ho dovuto pagarmi non solo il viaggio, nessuno mi ha dato un euro. Ma cosa c'entra? Scusi Michele, non è che nel settore pubblico ti pagano l'albergo, eh? Questa ragazza che noi abbiamo intervistato viene da Empoli, ha studiato a Torino, adesso vive a Arcore, sicuramente si sarà pagata anche lei qualche albergo, qualche casa per fare gli studi, i tirocini che ha fatto. Assolutamente, però voglio dire, non è che uno si debba impressionare o domandare come mai non gli pagano il tirocinio, nel settore privato funziona così. Ma lei ha detto, non si è lamentata del tirocinio privato che non pagano, ha detto che non trova nemmeno dei tirocini non a pagamento da fare, cioè non trova nulla. Ho capito. Questo è il problema, capito? Io a questo punto le vorrei dare la mia visione come imprenditore di uno che a suo tempo ha messo una firma di dimissione da uno stipendio garantito da dipendenti in banca. Allora, l'imprenditore è quello che non è che va in cerca di un posto di lavoro e quindi si chiede perché non ci sono dei posti di lavoro. L'imprenditore è quello che dice, beh, i posti di lavoro li faccio io, non ci sono, li faccio io. A me piacerebbe veramente sentire molto. Va bene, Michele, ma lei fa. Sì, no, è giusto, c'è un po' di spirito imprenditoriale, ci vorrebbe forse di più nei giovani, anche nei non giovani, non lo so, in generale, sicuramente non ci farebbe male. Non è neanche che possiamo fare tutte imprese, perché non è neanche questo, insomma. Però io capisco il suo suggerimento. Scusi, ma lei era indipendente in banca e poi si è dimesso? Sì, mi sono dimesso. E adesso che cosa fa? Vabbè, io all'epoca ho fatto l'imprenditore, ogni 7-8 anni cambio attività perché la mia attività precedente mi dà soddisfazione e quindi ne faccio un'altra lasciando la precedente a altri che la portano avanti, quindi in questo momento la mia attività è una web TV. È una web TV privata, naturalmente, che è nata con capitale proprio, è nata grattandomi in testa e dicendo a me, beh, adesso come cavolo si fa? nel senso che io non ho avuto nessuno che mi ha dato una mano, né come capitale né come formazione, ho dovuto fare tutto quanto da solo. E per il 2014 qual è il suo obiettivo? Io penso che la mia attività nel 2014 debba decollare più di quello che sta decollando adesso. La Web TV? Sì. Va bene, perché in bocca al lupo, Michele, grazie, ce lo segniamo, grazie. Traffico. Ah, non c'è il traffico. Ah, tutte le volte a quest'ora mi sbaglio, perché c'è sempre a quest'ora, invece non c'è. E allora invece c'è e ci ha raggiunto Michela Murgia, buonasera. Buonasera a voi, sono io il traffico stasera. Michela Murgia, scrittrice e candidata per le prossime elezioni regionali in Sardegna. Per la lista, esatto, che si chiama? Sardegna Possibile, è una coalizione. Che è una coalizione indipendentista, possiamo dirlo? Non solo indipendentista, nasce da un progetto indipendentista, ma è aperta a tutti i sardi di area progressista che non si riconoscono nei partiti tradizionali. Di area progressista, tra l'altro lei ha presentato la sua giunta qualche giorno fa, credo, sì, una parte. Abbiamo una parte. Fatto questa follia politica, ma sì. Un atto di trasparenza nei confronti degli elettori. A Natale è bello ricevere i pacchi chiusi, magari dalle urne ci si aspetta di sapere qualcosa prima. Cioè, lei dice giustamente, noi arriviamo dicendo prima quello che proponiamo e anche le persone dove vogliamo metterle, quello che vogliamo fare. E quindi ha presentato... Beh, sempre, sì? Quasi sempre in un territorio chi vince si insedia e dichiara gli assessori anche 5 mesi dopo. Dopo, sì. A parole siamo bravi tutti, il problema è che devi mettere dei volti a garanzia delle idee che prometti. Ecco, però prima di parlare di questo, cioè di politica, come se stessimo parlando con un candidato qualunque, insomma lei è diventata famosa perché ha scritto dei libri importanti. Per esempio, qua, ci sono dei colleghi che hanno fatto la stessa strada, non molti a dire la verità. Uno è Moccia, che fa il sindaco a Rosello, credo. Sì. Si sarà, sì, informata sicuramente. Fare lo scrittore in realtà è un mestiere come un altro, voglio dire. Tanti medici, tanti avvocati, tanti, sì, panettieri, tanti, cioè chiunque può candidarsi ad amministrare, a governare. Gli scrittori magari fanno una vita comoda, quindi è più insolito che possano dedicarsi alla politica. Evidentemente chi ha insomma questa spinta civica ritiene che non sia un limite. Anzi, ecco, a lei com'è nata questa cosa qua? Partecipare alla storia e scrivere storie sono lo stesso mestiere. Ah beh, questa è bella, me la segno, questa è bella. Partecipare alla storia o scrivere la storia sono un po' la stessa cosa. Possono essere, nel suo caso potrebbero esserlo, ma a lei personalmente come è nata questa passione politica? C'era già quando ha scritto i primi romanzi e ha avuto anche i primi riconoscimenti? Beh, io ho esordito con un libro che denunciava il precariato nei call center. Certo, ho sempre, è vero, avuto una, è vero, fortissima. Per me la scrittura è un atto politico sempre. Il libro che poi è diventato anche indirettamente o direttamente il famoso film Tutta la vita davanti, quello con Elio Germano, esatto, e Sabrina Ferilli, esatto, nella vita sui call center. In effetti, se ci penso, di tutti i libri che ho scritto, uno solo è un romanzo e gli altri sono saggi di riflessione su soprattutto la condizione femminile, la condizione dei precari. Ho sempre avuto, sono sempre stata un'attivista su certi temi. Quindi possiamo dire che tra... non nasce dalla mattina alla sera, ma nasce all'interno di un percorso di costruzione. Ecco, non si innesta in una maniera artificiale, come può essere successo per esempio a Moccia, oppure anche a Battiato in Sicilia, che poi credo che si sia interrotta la sua carriera politica. Lei rivendica un percorso. Penso a Liliana Vera, per esempio, nel Lazio, che fa l'assessore alla cultura, ma ci sono molti esempi anche internazionali, da Mario Vargas Llosa, che si candidò presidente del Perù, a me vengono in mente diversi che non hanno trovato assolutamente innaturale il prosieguo nella pratica di quello che nella teoria era il loro mestiere. Ecco, ma creare coscienza civica. Come si arriva all'idea dell'indipendenza? Perché è un'idea, vorrei dire vecchia, ma non vorrei essere offensivo nel suo confronto. Cioè, è un'idea che ritorna, insomma, questa dell'indipendenza sarda. Tra l'altro, se la dice la Lega per quanto riguarda il Nord, diventa una... No, però non accostiamo la Lega. È una cosa rozza che non funziona. Invece la Padania appartiene alla stessa geografia a cui appartiene Topolinia o a cui appartiene la Terra di Mezzo. La Sardegna ha una sua storia molto precisa, ha un confine che non è determinato da accordi politici ma dalla geografia. Parliamo di due cose molto differenti, però il concetto alla fine è lo stesso. Cioè, è chiaro che la Sardegna esiste come regione, come entità, come lingua, e la Padania è più un frutto, diciamo, di tante cose messe insieme, però alla fine l'idea è la stessa, cioè la separazione. Perché questa idea di separazione? No, ma perché la separazione? È l'autodeterminazione in termini, non la separazione. Cioè, non fatico a capire il conflitto su questa questione. L'indipendenza è l'assunzione piena della responsabilità su di sé, in qualche modo il superamento dell'adolescenza civica che immagina che ci sia qualcun altro che deve sempre prendere le decisioni che ti riguardano. La Sardegna, quando combatte per la sua indipendenza, non difende uno status economico o il timore di vedere minacciata la propria identità statica. Sardegna lotta per diventare pienamente responsabile di sé. Però non è un po' anacronistica, visto che adesso ci sono nuovi ingressi nell'Unione Europea, è vero che è ancora forte il tema dell'uscire dall'euro, però si assiste più ad aggregazioni che non a rivendicazioni, diciamo, di autonomia in una regione peraltro piccola come poi sarebbe la Sardegna. La Scozia è a un passo dal referendum per l'autodeterminazione, la Catalogna ci arriverà al massimo entro due anni. In realtà i processi di acquisizione di sovranità su se stessi sono continuamente in corso e sono fatti storici. Non ha niente a che fare con l'uscire o l'entrare dall'euro, questo ha a che fare con l'idea che sia di sé come popolo, come luogo storico. E voi che idea avete? Perché mi sembra di capire che siete in contrasto, lei l'ha detto, anche se si situa nell'area progressista, anche siete in contrasto anche con le politiche fatte dal PD e forse ancora più con quelle fatte dal PDL. Bisognerebbe dimostrare che il PD è progressista per rispondere a questa domanda. Il PD è un partito conservatore con logiche di conservazione, non è un nostro interlocutore. Gli elettorati che si sono riconosciuti nel PD fino a questo momento sono probabilmente in prima fila nella delusione che sto esprimendo in queste parole, nel senso che il PD non deve temere la nascita di nuovi soggetti che riprendono valori della sinistra, deve temere gli elettorati che ha preso in giro in questi anni. E qual è il programma, il vostro programma, su cosa si basa? Beh, sicuramente l'istituzione dell'Agenzia Sarda delle Entrate, che è uno dei nostri poteri di statuto, cioè trattenere le nostre risorse fiscali sul territorio per avere più denari per gli investimenti infrastrutturali, la questione dei trasporti, che per noi non è sicuramente un optional, siamo un'isola e abbiamo bisogno di poterci relazionare col mondo per avere competitività aziendale, e anche legami culturali che ci rendono parte di tutto il mondo, non soltanto attaccati all'Italia da questo esile filo delle rotte decise altrove. E un forte investimento sulla cultura e sull'agricoltura come risorse culturali ed economiche. È molto difficile dirlo in poche parole, ma ci sono una serie di scelte che costruiscono una nuova idea anche di futuro rispetto a quello che la Sardegna ha conosciuto. Fino a questo momento la Sardegna è stata luogo di servitù industriali e militari. L'isola da sola ospita il 60% del totale di tutte le zone militari d'Italia, cioè il 60% ce l'abbiamo noi, e una delle principali connotazioni dell'isola è proprio quella di essere una sorta di portaerei nel Mediterraneo. Quindi a lei non interessa il concetto di aiuti, per esempio, di Stato per quanto riguarda le industrie che stanno morendo in Sardegna e che invece è uno dei cavalli di battaglia di molti politici, no? Perché porta voti, promettere occupazione, però chiedendo aiuto magari allo Stato. A lei questo concetto non interessa? No, per nulla. A noi interessano le industrie sane, che sono in grado di competere sul mercato alle stesse condizioni a cui competono le industrie. Ma per esempio in Sardegna c'è un esempio di questo? Intanto ripristiniamo le condizioni di parità, delle condizioni appunto che dicevamo di competitività. Se in Sardegna l'energia costa il 20% in più che in Lombardia, non c'è da stupirsi se c'è una competitività inferiore anche delle imprese. Occorrono interventi infrastrutturali che in questo momento la classe politica sarda non è in grado di fare. La Sardegna non ha un piano energetico e ho detto tutto. Insomma, lei ce l'ha detto, si situa nell'area progressista, prendendo le distanze anche dal PD, che non è un partito progressista. Tra i suoi futuri possibili assessori ci sono un ex sindacalista e un ex presidente, credo, di Slow Food Sardegna. Quindi, diciamo, il tema dell'agricoltura e del paesaggio per voi sono centrali. Cioè, la Sardegna è un po' come... centrali, è vero. Siamo convinti che le guerre del futuro si faranno per il cibo e non per il petrolio. Si può vivere senza industria, ma non senza agricoltura, lei dice. No, ma perché l'industria non è soltanto l'industria pesante. Penso soltanto all'industria del riciclo dei rifiuti, che di fatto significa avere miniere di materie prime che al momento in Sardegna non vengono trattate, vengono trattate fuori. Soltanto riprendere in mano la gestione dei rifiuti, che la Sardegna è molto virtuosa nel separare, significa poter reimpiegare moltissimi dei cassi integrati che oggi stanno appesi alle promesse di industrie già chiuse. Senta, tornando, diciamo, quando è che si vota in Sardegna? Il 16 di febbraio. Quindi tra poco più di un mese. Il centrodestra credo che abbia due candidati forti, il PD non ne ha ancora uno ufficiale, se ho ben capito. Il PD sì, ha questo problema, che a un mese non ha ancora il candidato, ha decapitato l'unica che aveva la legittimazione delle primarie. E non è che finiscono per appoggiare lei, no? Come qualcuno ha auspicato. Beh, è difficile che un partito dichiari debacle riconoscendo che c'è, come dire, una sinistra naturale sul territorio che si è auto-organizzata a prescindere dagli apparati. È più probabile che questo discorso lo possano riconoscere gli elettori, che hanno molte più, come dire, molte più risorse di quelle che di solito la politica tradizionale è abituata ad attribuire. Senta, ma sulla questione per esempio della possibilità o meno di costruire nei pressi delle coste, perché questo è un tema che ritorna, era una legge voluta da Soru, però adesso il centrodestra ha modificato in parte questo, consentendo, non proprio in prossimità, ma credo un pochino più nell'entroterra, di costruire. Lei che posizione ha? Ma sicuramente la Sardegna ha già più costruzioni di quante non gliene servano. La ristrutturazione dell'esistente è una risorsa importante, ma è anche importante che politiche così, come dire, così rilevanti per sì. tutto il territorio siano concertate in futuro ascoltando di più i territori. Il piano paesaggistico di Renato Soru in 8 anni ha trovato sotto solo 8 comuni su 380 che hanno adeguato il loro piano, il loro PUC cosiddetto. Credo che quando solo 8 su 400 su 380 ti vengono dietro, qualcosa devi averla sbagliata anche tu in termini proprio di interpretazione del sentire territoriale. Non è che i Sardegna sono tutti cementificatori. Noi siamo per i processi partecipativi che stiamo portando avanti durante tutta la campagna elettorale. Mai più bisogna dare risposte senza aver ascoltato le domande. Va bene, in bocca al lupo. Grazie Michela Murgia per essere stata con noi. Ringrazio io. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora riprendiamo con i vostri interventi e andiamo dove andiamo, a Ciro che ci chiama da Foggia. Buonasera. Buonasera, buonasera. Auguri, prego. Grazie. Senti, volevo condividere con i suoi ascoltatori un sì? dubbio. Ma siamo certi che onorevoli col bollino di legittimità da eleggere chissà quando abbiano più competenze e voglia soprattutto di fare una buona legge elettorale rispetto a questi onorevoli che hanno il bollino degli abusivi? Come, ma guardi, assoluto, non c'è versi, la legge elettorale la possono cambiare solo questi che hanno il bollino degli abusivi, perché questo non si scappa. La cosa che, la sì? cosa che non, mi meraviglia sempre di più, che quando arriva al dunque, noi italiani siamo poi ci attardiamo a discutere sul sesso degli angeli. Questo è il nostro più grosso difetto, che ci riconosco, mi riconosco anche io. Questo è, per cui come cittadino auspico che si vada a discutere della legge, e non solo a discutere, ma andare a votare. Va bene. Se si raggiunge una maggioranza è bene, se no si va con Mattarellum, però a quel punto, quando andrò a votare, avrò anche, come dire, elementi in più per scegliermi chi possa meglio rappresentarmi. Grazie Ciro, grazie. Salve. Andiamo a Roma. Giuseppe, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo fare un intervento, cioè sarò schematico, nel senso, la Lega non dovrebbe, dovrebbe astenersi dal dibattito per quanto riguarda la discussione della legge elettorale dopo il forum, dopo che ci hanno tenuto con questa legge elettorale anticostituzionale, e lo sapevano, e quindi dove il popolo è sovrano e invece noi non abbiamo mai deciso niente di niente negli ultimi anni, e quindi dovrebbe astenersi completamente dal dibattito della legge elettorale, punto primo. Seconda cosa, il Movimento 5 Stelle sta parlando che la legge elettorale è anticostituzionale dai tempi del Boudet, se lo ricorda? I tempi del Boudet? Sì. E allora nessuno parlava della legge elettorale, e tra l'altro è stata presentata che nell'intervento di Grillo che avete fatto sentire stasera, quelle proposte di legge, quelle tre proposte di legge che poi sono andate, non si sa, sono state perse in Parlamento, dove c'era la proposta di iniziativa popolare, quella delle tre leggi, se le ricorda, quelle della come si chiamano, la doppia... Vabbè Giuseppe, però adesso non ci faccia l'excursus storico delle proposte, perché ce ne sono state milioni e quindi va bene, è inutile stare a riepilogare, a ripassare. Vuole fare un buon proposito invece qui davanti a tutti gli ascoltatori per l'anno prossimo? Ma guardi, il buon proposito sarebbe quello che il Movimento 5 Stelle sì. Possa andare a governare finalmente questo paese, perché non ma con chi però, mi scusi, da solo? Sì, da solo, e secondo me ce la fa. Però bisogna tornare a votare, e lei dice il Movimento 5 Stelle potrebbe avere la maggioranza. Questo è il suo buon proposito. Grazie Giuseppe, più che altro è un auspicio, perché non dipende solo da lei, insomma. Io chiedevo qualcosa che lei si impegna a fare nel 2014. Auguro. Io me lo auguro. Va bene, grazie. E andiamo, dove andiamo? A Roberto, che ci chiama sempre da Roma. Buonasera. Sì, buonasera a voi. Innanzitutto buon anno nuovo e buona chiusura di quello precedente, ormai l'abbiamo messo da parte. E il mio buon proposito a livello personale, che spero che possa essere, come diceva lei, più che altro un auspicio per tutta quanta la collettività, è che ci possa essere, per quanto riguarda il senso etico, il senso civile, uno Stato italiano un po' più laico, un po' più, con uno sguardo un po' più attento anche verso quelli che non sono i religiosi ormai storici dell'Italia, che ci si porta dietro da tempo immemore. Ma lei a cosa si riferisce però? Cioè a qualcosa in particolare? Mi riferisco nello specifico alla vicinanza tra i politici italiani e lo Stato della Città del Vaticano, e le varie ossequie che fanno di volta in volta i nostri rappresentanti appunto politici a questa che è una casta sacerdotale, ormai voglio dire siamo nel 2014, e sono cose un po' anacronistiche, che comunque ogni cosa che debba essere inaugurata, fatta nuova per lo Stato, per la collettività, per tutti noi, debbano essere in qualche maniera benedetta, o comunque debba avere l'approvazione di un qualcuno togato tra virgolette, o comunque che abbia, ecco, appunto questa importanza religiosa. Voglio dire, mi sembra che stiamo un po' avanti con i tempi per poter superare una fase così anacronistica, appunto. Va bene, cioè lei dice anche i partiti che non fanno riferimento espresso alla Chiesa, poi però si coltivano la lobby, lei dice, insomma, la vicinanza con il Vaticano perché porta voti. Ecco, quegli atteggiamenti che può essere la reverenza da una parte, piuttosto che la presenza durante un incontro politico di un partito di questo o quel reverendo illustrissimo, oppure la presenza sempre di questi ultimi alle pubblicazioni di libri di esponenti politici, piuttosto che di persone molto vicine a filoni e correnti politiche. Insomma, sembra un po' una cosa molto avvinghiata, e direi avvinghiata anche a due mani, che si tengono anche molto strette queste mani, e non è una cosa recente, è una cosa che ci portiamo avanti dai tempi, da quando più o meno è stata fondata questa più grande associazione, non so, impresa, come la vogliamo chiamare, che è quella che storicamente ha la vita più longeva, da più di 2000 anni continua sempre nel suo excursus socio, politico, economico. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Allora, su Twitter Diana Anastasi mi scrive: perché tanta compiacenza con questa Fontana? Scommetto che era nel sindacato, altro che libera iniziativa. Buh. Non c'era nessuna compiacenza con questa Fontana, l'abbiamo semplicemente intervistata perché era una delle persone a cui Napolitano ha risposto. Se lei poi dice che Napolitano ha risposto a lei perché è nel sindacato, lo vedremo, non lo so, lo dimostri, cosa vuole che le dica, però non credo, non stiamo sempre lì a pensare male perché viene mal di pancia. Poi un buon proposito per l'anno prossimo è: non fate venire mal di pancia pensando a queste bischierate. TG della 7. Matteo Renzi accelera sulla legge elettorale, segretario del PD spiazza tutti inviando una lettera ai segretari dei partiti, sia di maggioranza che di opposizione, per velocizzare il superamento del porcellum con tre proposte: il sistema spagnolo che piace a Forza Italia, il Mattarellum rivisitato, sistema dei sindaci con doppio turno. Garantiscono tutte un vincitore certo, governabilità per 5 anni e alternanza, dice Renzi. Sì ad una nuova legge elettorale, purché venga però fatta entro i confini della maggioranza. Questa è la preoccupazione che aleggia nella coalizione di governo, soprattutto nel nuovo centrodestra di Alfano. Quella di Matteo Renzi è solo un'operazione mediatica, attaccano invece i vertici 5 Stelle, mentre Forza Italia promuove l'attivismo di Renzi e Berlusconi chiede un passo in più: si va a votare a maggio insieme agli europei. La borsa premia l'acquisizione totale della Chrysler da parte della Fiat. Dopo l'accordo con il fondo Veba, il titolo del lingotto vola oltre il 16%. Per l'amministratore delegato Marchionne e per il presidente della Fiat Elkann, l'intesa rappresenta una svolta epocale. E proprio dal mercato dell'auto arrivano piccoli segnali di ripresa, un più 1,4%, ossia 225 italiani in più hanno immatricolato un'auto nuova nel dicembre dell'anno appena trascorso rispetto allo stesso mese del 2012, contribuendo a far uscire il settore automobilistico da 42 mesi di crisi nera, e ora si attendono i risultati dei saldi. Violentata più volte e poi bruciata, una ragazza di 16 anni è la vittima di un nuovo caso di stupro di gruppo in India. Centinaia di persone sono scese in strada a Calcutta per denunciare la violenza e l'atteggiamento della polizia, che secondo i familiari non sarebbe intervenuta dopo la prima denuncia della giovane. È solo l'ultimo di una lunga serie di gravi episodi di brutalità contro le donne. Michael è un combattente e non mollerà, è il messaggio diffuso dai familiari del campione che resta in coma farmacologico. Sulle condizioni di Schumacher, che domani compie 45 anni, i medici restano ancora in silenzio, mentre il quotidiano tedesco Bild ipotizza che sarebbe passato sulle rocce per aiutare la figlia di un amico. E allora torniamo agli interventi degli ascoltatori. Abbiamo Dino da Grosseto. Io lo so che questa sera resterò insoddisfatto perché non chiamerà nessuno che conosce il sistema elettorale spagnolo, e che io volevo chiarimenti in merito, volevo chiarimenti da qualcuno che conosce questa cosa qua. Vediamo un po', Dino. Buonasera. Allora, a parte lo spagnolo, io purtroppo la potrei sostanziare anche subito, ma preferirei parlare di un altro sistema. Un sistema che renda ineludibile chi vince e chi perde, ne lascio uno solo, perché il problema dell'Italia è la quantità dei partiti. Ecco perché poi volevo fare riferimento al fatto che non lo deve scegliere il Parlamento qual è il sistema elettorale, ci deve essere un referendum. E chi lo deve scegliere? Lo devono... I cittadini tramite un referendum. Ma guardi che non funziona, in Italia il referendum è solo abrogativo, quindi non si può scegliere una cosa come dice lei. No, ma lei sa benissimo, se volessero si farebbe un consultivo, poi dopo al consultivo gli si dà una valenza diversa e si rispetta quella che è la volontà del popolo. Comunque volevo solo accennare al fatto che esiste un sistema che è l'australiano, che è semplicissimo. È un sistema dove, tanto per fare un esempio, se abbiamo il partito A, B, C, D, E, i 5 partiti, si fa la votazione sui 5 partiti, poi si fanno vari spogli, cioè 4, per arrivare a uno solo, dove la cosa molto interessante è che arriva ultimo dal primo spoglio, i voti di quegli ultimi al secondo posto vengano redistribuiti sui restanti, fino ad arrivare ad un partito solo e quindi avere il meno sgradito, in buona sostanza, che comanda da solo per 5 anni. Non ci sono problemi, ma la realtà è che nessuno lo vuole, perché chiaramente qui si vogliono tutti autoconservare. Cioè, il problema è questo, ci dobbiamo trovare davanti a un Renzi che ora può tanto pensare, ce ne propone addirittura 3, per darsi la libertà. Va bene, Dino, grazie. Però devo dire che quei 3 che propone Renzi vanno un po' nella direzione che diceva lei. Non so tanto del sistema australiano quanto, per esempio, quello col doppio turno è molto simile, cioè qualcuno vince ineluttabilmente. Però ha ragione anche Grillo a dire che finché non ci sono le proposte concrete, magari non saranno pagliacciate, ma sono parole. Diva da Roma, buonasera. No, Diva non ci sente. Antonio da Padova. Pronto? Ecco, la Diva ci sente? Buonasera. Sì, prego. Complimenti per la trasmissione. Peccato che telefonino poche donne. Ci vedete a quest'ora. Ecco, lei venga ad alzare subito la media. Io telefonavo in particolare per una considerazione, sì, e per una proposta. La considerazione è che sentire le esponenti della società civile, in questo caso casualmente erano 2 signore, la ragazza è stata citata da Napolitano e poi la signora lombarda che si è organizzata a 50 anni, sì, sul lavoro e... rende molto interessante e fa capire un po' la differenza di quando parla un politico e quando parla una persona della società civile. Altezza di ideali, concretezza, moderazione, modestia. Purtroppo questo non avviene quando parlano i politici. L'altra cosa che volevo dire è che sarei felice se davvero si potesse avverare ciò che Renzi ci propone all'inizio dell'anno, che in un mese, cioè sì, anche lo Stato, si possa risolvere il problema della nuova legge elettorale e che lo Stato funzioni come le società private, cioè che se si decide c'è bisogno di fare qualcosa, sì, se si deve cambiare una regola si cambia e poi si applica. Va bene, tra l'altro devo dire... Una proposta, sì, avevo da farle. Eccolo, sì. Le province, perché, sì, non diamo alle province il ruolo che oggi ha Equitalia, che invece è privata e che si mangia il 30% delle nostre tasse solo per erogare questo servizio? Abbiamo le province piene di funzionari eccellenti, diamo a loro questo lavoro e resta il 100% delle nostre tasse in Italia. Tra l'altro noi paghiamo più tasse della Francia con meno erogazione di servizi. Io sono una donna qualunque, anch'io ho 51 anni, ho perso da poco il lavoro e diciamo tanta energia ed è un peccato che io come tanti altri restiamo a casa, quindi diamoci da fare. In bocca al lupo anche per le sue vicende personali. Vedete però come siete conformisti, cari ascoltatori di Radio 24, perché fino a poco tempo fa avreste telefonato dicendo che la legge elettorale non è una priorità, chi se ne frega, sono altre le priorità, non interessa agli italiani. Adesso che se ne parla più concretamente, che Renzi avanza delle proposte, sono mesi che si incalza un po' su questo, tutti che ne discutono, giustamente, secondo me, correttamente, perché io sono sempre stato convinto che sia una priorità la legge elettorale. Cavolo, come no? È il sistema che determina la nascita o meno di governi solidi, quindi è sì una priorità. Però non c'è nessuno stasera che invece dice che sono ben altre le priorità, il famoso benaltrismo. Antonio da Padova, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori, sono un benaltrista. Ah, oh, finalmente, venga a spezzare questo clima di monotonia. Mi ci ha portato lei con queste ultime sue parole. Sono un benaltrista perché io penso, sì, che non il problema dell'Italia non sia la legge elettorale, ma sia la legge fondamentale, cioè la Costituzione. Una Costituzione nata in un momento particolare e una Costituzione che dimostra chiaramente, a distanza di quanti sono 70 anni più o meno, che c'era una persona che aveva le idee chiare e i miei idoli. Chi era la persona che aveva le idee chiare? Era Togliatti. Ah. E i miei idoli, gli Einaudi, gli Sforza, i De Gasperi, Pella, liberal democratici si potrebbero definire oggi, non hanno capito niente. Abbiamo una Costituzione che, se fosse applicata integralmente, ci ridurrebbe a una democrazia popolare est europea, tanto per fare un esempio. Quindi ha perfettamente ragione chi dice che la Costituzione italiana somiglia molto alla Costituzione sovietica del 36, se portata alle sue estreme conseguenze. L'articolo 41, che al primo comma dice l'iniziativa privata è libera e al secondo comma dice che deve avere una funzionalità sociale, senza specificare chi stabilisce la funzionalità sociale di un'impresa e quali sono le caratteristiche. Quindi, con un determinato andazzo della Corte Costituzionale, per esempio, si potrebbero vedere delle belle. Per quanto riguarda la legge elettorale, è un problema solo perché il Porcellum è una schifezza. Però, attenzione, lei si domandava prima, ma perché adesso è saltato fuori il Mattarellum? Il Mattarellum è saltato fuori per un motivo molto semplice, che contiene un tesoretto di 174-175 seggi da dare in maggioranza. Il che vorrebbe dire che, se applicato integralmente, senza specificare qual è la soglia minima, qual è la percentuale minima che il partito che vince le elezioni per poter adottare tutto il premio di maggioranza, cioè il 25%, sarebbe peggio dell'attuale Porcellum. Quindi, lo so, Antonio, ognuno c'ha la sua di legge elettorale, però mi sembra che la sua posizione forse è un po' in minoranza, perché il fatto stesso che tutti i partiti spingano dicendo bisogna che sia chiaro la sera delle elezioni chi ha vinto e chi governa, va nella direzione che si pensa che, insomma, l'elettorato richieda, perché in questi anni c'è stato, al di là del bipolarismo, c'è stata un po' di confusione. E non è stato chiaro chi governava. Insomma, abbiamo visto nelle ultime forse tre legislature è stato dura da questo punto di vista. Quindi, però è vero che la legge elettorale è un po' come la nazionale, ognuno ha la sua. Sebastiano, che ci chiama da Foggia, buonasera. Buonasera signor Maurizio e buon anno a tutti gli italiani. Grazie. Io voglio fare un discorso semplicissimo, senza complicazioni. Qui abbiamo un Peppe Grillo che sì, prima ha preso per il culo italiani facendo il comico, adesso vuole prendere per il culo italiani facendo il politico, facendo il buffone. Mi spiego, è mai possibile che ha preso tanti di quei voti, che è stato il primo partito, rifiuta di andare al governo, rifiuta di fare le leggi, rifiuta ogni cosa, e allora alla fine propone l'impeachment per il Presidente della Repubblica, la cosa più vergognosa che poteva proporre. Io il proposito che voglio, diciamo, offrire per il 2014. Bravo, bravo, è questo. Sebastiano, io scrivo. Lunghissima vita al Presidente della Repubblica Napolitano, che con la sua anzianità, con la sua esperienza, più o meno una sessantina anni di politica, può insegnare a Grillo come si vive. Il signor Grillo, va bene, è lui che merita un impeachment. Quindi, allora, lunga vita al Presidente Napolitano, l'impeachment per Beppe Grillo. Benissimo. Che ha tradito i suoi elettori, lo hanno mandato là per continuare a fare il buffone. Ti prende i voti, va al governo, ti prende i voti, lo fa per andare a governare. Va bene, Sebastiano, è chiaro. Lui vuole sgovernare. Auguri Napolitano, buona vita, auguri a tutti gli italiani, ai quali sì, prego di avere un po' di pazienza, un altro poco. Perché? E l'Italia uscirà dal merdume che qualcuno vuole buttare sugli italiani. Viva l'Italia! Sebastiano, ma lei che lavoro fa? Di cosa si occupa? Io sono un fisioterapeuta. Fisioterapeuta? Sì, sono fisioterapeuta. Cieco. Peso 124 kg, quindi 124 quintali di baffangulo al signor Grillo. Ma che c'entra? Scusi, lei pesa 124 kg e lei pesa io peso più di Grillo, voglio dire. Come cervello. Ma lei pesa 124 kg veramente? Sì. Ah, beh, insomma, posso. Ma scusi, che cos'è il fisioterapeuta? Io conosco il fisioterapista. Il fisioterapeuta è, diciamo, un abbellimento. Io sono fisioterapista. Ah, l'ha detto così ironicamente. Lei ha un po' di ironia. Sì, nelle sue corde. Diciamo che, come si dice, a me piace il bello, a me piace l'estetica, mi piace vivere, diciamo così, con l'allegria, mi piace vivere con l'ottimismo. Ma ma questo signor Grillo... Ma lei c'ha un'ossessione per Grillo, però, adesso stavo chiedendo di lei. Sì. Ma scusi, ma si prendono i voti per andare a governare, non per andare a sgovernare. Va bene, Sebastiano, questo l'ha detto chiaramente. Grazie, auguri anche a lei. Io il suo buon proposito, che più che altro è un auspicio, me lo sono segnato, lunghissima vita... a napoletano, va bene. Soprattutto sì. Italiani, abbiamo pazienza, ce la faremo. Grazie, questo è un messaggio di fiducia e di ottimismo. Luca da Roma, buonasera. Buonasera a voi. Prego. Allora, io vorrei intervenire sul discorso di quella signora di ex Eutelia che sta in CIG, del discorso della perdita del lavoro, no? Sì. E volevo appunto dire quello che già avete accennato, cioè che in Italia quando uno rimane senza lavoro è quasi una vergogna sociale, insomma, no? E invece bisogna dirlo, insomma, parlarne, perché è una cosa che può capitare. A me è capitata due volte e poi per fortuna sono riuscito a ritrovare una collocazione, però effettivamente si vive come una specie di così, cosa da non dire, da nascondere, da dire solo agli amici o magari manco a quelli, insomma. Invece come tutte le cose che possono capitare nella vita bisogna dire pure quelle. Grazie, grazie anche a lei. Grazie a voi. Adesso è il momento, come ogni sera a quest'ora, prima di congedarci, di raccontarci, di raccontarvi una bella storia di un italiano che è riuscito a raggiungere un traguardo. Il traguardo è quello di Rosario Esposito da Napoli. Buonasera intanto. Buonasera. Un ragazzo di quanti anni? 25 anni, che nel momento in cui si è trovato a pubblicare il suo primo libro, credo, ha ricevuto in dono molto di più, tutta la casa editrice. Ora io ho sintetizzato, ma è un po' questa la vicenda. Lei è andato per pubblicare un libro a una casa editrice napoletana e adesso, a distanza di quanti anni, lei si trova a gestire quella stessa casa editrice? Di 3 anni. E, beh, la ci storia racconti. è un po' particolare, che noi abbiamo pubblicato questo libro dedicato a mio cugino Antonio, sì, Landieri, che è una vittima innocente di Camorra. Il libro si chiamava Al di là della neve, raccontava la storia di Antonio, che è stato uno dei tanti ragazzi che si è trovato a posto sbagliato al momento sbagliato, e noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare queste due splendide persone, Tommaso Marotta e Anna Cafiero, che appunto avevano fondato nel 59, quindi tantissimi anni fa, questa casa editrice storica napoletana, che non solo ci hanno pubblicato questo libro senza farci pagare niente, quindi non editori a pagamento, ma che a un certo punto della loro vita, invece di distruggere tutto quello che avevano creato, perché se ne sono andati in Francia a intraprendere un nuovo percorso imprenditoriale, l'hanno regalata a due ragazzi di 20 anni, a me e a Maddalena Stornaiolo. Noi l'abbiamo presa da Posillipo, questa casa editrice, e l'abbiamo trasferita a Scampia. Già questa è una bella favola cittadina, no? L'incontro tra due quartieri diversi, l'abbiamo ricevuta in dono da 60 anni, eravamo 20 anni, una favola tra le generazioni. Perché avete ricevuto in dono che cosa poi concretamente? I titoli, gli scrittori? Sì, 30 libri in catalogo, sì. 22.000 libri in magazzino, il marchio, veramente tutto, è stato un regalo in questa società dove non si fa niente in cambio di niente, è veramente qualcosa di straordinario. Perché loro che cosa hanno visto in voi? Hanno visto forse quello che loro erano stati anni prima, cioè dei amanti dei libri, dei sognatori, delle persone che ci credono, e ci state credendo, perché adesso quante persone lavorano lì? Oggi 7, siamo partiti in 2, oggi 7 persone tra webmaster, grafici, addetti stampa, promoter, un'impresa particolare, gran parte, sì, dell'impresa è a femminile, che pubblica libri con licenza Creative Commons, quindi tutti fotocopiabili, stampati su carta riciclata. Cioè, avete capito, ascoltatori, che grado di innovazione da Scampia, una piccola casa editrice da 2 persone sono diventati 7. Quali sono i libri, insomma, i titoli, gli argomenti di cui vi occupate? Cioè, ci sarà un motivo per cui questa casa editrice sta anche riscuotendo un certo successo? Noi ci occupiamo di editoria, di impegno civile, sociale, in particolar modo ci occupiamo di ambiente e di immigrazione. Abbiamo da poco pubblicato una grammatica di italiano per immigrati, libri dedicati allo sport e al sociale. E per noi è molto importante, perché grazie a questa casa editrice stiamo girando molto l'Italia, raccontando pezzi del nostro quartiere in giro per l'Italia. Ecco, ma tu che a distanza di 3 anni appunto puoi raccontare di avercela fatta almeno per ora con tutti gli scongiuri, comunque di aver iniziato un'attività che ti sta dando soddisfazione e sta dando anche ad altre persone la possibilità di lavorare, ti definisci un imprenditore a questo punto, un editore imprenditore? Sì, noi, dico noi perché siamo un gruppo, sì. Ma ci definiamo imprenditori culturali del nostro quartiere, sì. Noi siamo una casa editrice che parte da Scampia, ma non è la casa editrice di Scampia. Siamo state alla Fiera del Libro di Torino, sì. Il 4 dicembre, quindi esattamente un mese fa abbiamo aperto nel cuore del centro storico napoletano, in uno dei teatri più belli d'Europa, il Teatro Bellini di Napoli, una libreria. Quindi questa è un'impresa che continua a crescere, continua ad andare avanti, e forse la potenza sta proprio nell'impresa, nell'indipendenza, nel non aspettare i fondi pubblici, ma poter usufruire dei frutti del proprio lavoro, investirli, reinvestirli nel sociale, nella cultura. Ma Rosario, tu credi nella fortuna in qualche modo, oppure pensi di aver lottato più di altri? No, noi non ci fermiamo mai, campiamo 2 volte, di notte sogniamo e di giorno realizziamo, ci battiamo tanto, diciamo veramente un cuore così. E la forza sta nell'innovazione, quindi nel fare libri diversi da altri, la forza sta nel saper trovare le persone giuste, creare microimprese che si parlino tra di loro, dei consorzi. Noi siamo questo fondamentalmente, un consorzio di tante microimprese fatte da uomini che non si arrendono davanti alle difficoltà. Noi siamo quelle persone che magari si possono reincarnare nella canzone "Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, chi ti ha il bastone e tira fuori i denti". Bella questa, non vi arrendete mai. La tenacia quindi è sicuramente un elemento forte, insomma la motivazione anche. Qual era la tua motivazione? Cioè tu quando hai intrapreso questo percorso cosa pensavi di fare nella vita? Quali aspettative avevi? Quali erano le cose che ti spingevano? Una necessità di sopravvivenza oppure no? Avevi qualcuno, una famiglia alle spalle che ti manteneva? Guarda, io ho avuto la fortuna rispetto ad altri miei amici comunque di avere una famiglia alle spalle, sì. E sicuramente la motivazione principale è stata la morte di Antonio, cioè si arriva a 15 anni che la vita ti sbatte in faccia il conto e quindi tu puoi o affogare o continuare a nuotare. E quindi noi abbiamo deciso di continuare a nuotare, di rimboccarci le maniche, e una delle motivazioni è stata questa. E poi perché nonostante tutto, nonostante la morte di Antonio, comunque Scampia, che oggi è un marchio, cioè c'è gente che viene da fuori a speculare, rimane la nostra terra, rimane casa nostra, perché nonostante tutto qui abbiamo seppellito i nostri sogni e li annaffiamo con cura affinché possano diventare giganteschi baobab. Senti qua, cioè parli come se tu stessi scrivendo o leggendo addirittura, adesso capisco perché ti hanno pubblicato il libro intanto, perché evidentemente questa capacità ce l'hai innata. Rosario, in bocca al lupo, complimenti. Non so, c'è un messaggio che vuoi dare? Per esempio, noi abbiamo raccolto buoni propositi un po' di tutti in questi giorni. Dal tuo particolare osservatorio di Scampia, quale altro obiettivo vuoi raggiungere, visto che ne hai già raggiunti molti così giovane, l'anno prossimo, quest'anno? Noi abbiamo anche una compagnia teatrale, gestiamo anche una compagnia teatrale, sicuramente vogliamo andare avanti nel teatro, fare libri e teatro, che oggi sono settori in crisi, però quando c'è innovazione e voglia si può andare veramente lontano. Il messaggio che io voglio lanciare è che comunque qualcosa si sta muovendo, c'è un'acqua che bolle sotto questo quartiere, sotto questa città. Attenzione, guardateci, perché andremo a 100 all'ora. Grazie Rosario e auguri. Grazie a voi, auguri. Rosario Esposito della libreria Marotta Caffiero, adesso di Scampia. Hai sentito la sua storia, davvero, davvero incredibile. Noi ci sentiamo domani alle 18 per l'ultima puntata di questo spezzone estivo, buonanotte, delle vacanze non estive. L'abitudine è alla scorsa estate, quando in questo stesso orario vi abbiamo tenuto compagnia ad agosto. Poi invece si può fare, tornerà il sabato alle 7.30, la domenica alle 8.30 la mattina, e da lunedì prossimo torneranno Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo con la Zanzara. Per il momento è tutto, buona serata e auguri ancora di buon anno, a domani.